Oggi comincio a prendere gli appunti anche io. Grande. Oh, grande, Abbiamo sì. Il mio libretto rosso. questa Pino. musica per un motivo molto Madonna. semplice. Mi ci piace questa Ed musica. è che Non la succede nostra mai segna niente di tempo male. torna indietro di un click, di un tic alla mattinata del giorno prima. Prima rispetto a quando? Nei 3 giorni passati a fare il grinding? Ok. Esatto. Quindi voi avete fatto il grind off sessione e la segnatempo riavvolge di un giorno, quindi al 3 ottobre abbiamo skippato questa scena. Mi serve sapere chi di voi al mattino presto, cioè subito dopo il caffè, non c'è il caffè, quindi subito dopo l'infuso mattutino, va in giardino. Eh beh, io per forza. Poi? E anch'io. Io devo essere in giardino per quella scena che hai No, no, detto. no. E... Ok, no, allora sono dentro. Abbiamo quindi, aspetta, Zanzan, Erindor e basta. Ok, Se vuoi io. e Ivan, perché giustamente non vuole lasciare suo figlio da solo. Questa metafora, Cosa Erindor è tuo è figlio. successo? No. E c'è Batu, perché Batu comunque è più a contatto con la natura. Al mattino, ormai sono un paio di giorni che state qua, sapete che vi portano i giornali e una riserva di manapenny da mettere nelle macchine. Non facciamo. Non voglio nemmeno sentire le vostre opinioni su questo fatto, quindi glisserò oltre. Non posso fare la cresta sui No, non puoi, è esattamente quello che manapenny. dicevo. Rimborso spese. Sapevo No, che la macchinista mi ha venivi. mangiato il Ad manapenny. avvicinare le mani sudice verso il manapenny, io tac, proprio di Finisce schiaffola. in tragedia sta sessione, ve lo dico. Comunque, arrivano due soldati, normalmente sono in gruppi da 5, il fatto che siano in due dovrebbe colpirvi, e dovrebbe colpirvi che hanno due maschere da legato. I legati in genere sono insieme a quattro legionari. Uno dei due chiaramente ha una posizione di comando, perché è l'unico dei due che parla, è l'unico che gestisce le cose, e si avvicina al gruppetto, immagino siate insieme voi 3,5 con Batu, e dice: ho portato i giornali e la riserva di Penny. Vi guarda, vi squadra uno per uno, e vi dice: come sta Naya? Guardo i miei compagni più letterati di me, che in questo caso è Di questi tre. Erendor. Ma... sarei un po' per i cazzi miei, però vabbè. Erendor non sa un cazzo, quindi per lui sta anche Allora, in teoria è questa Maria che ci parla, mi sa. Non hai Se avuto. conosci Non lo Naya. sai. L'avevo vista, Però io io non lo non. so. Avete vista Full Armor, mi sembra. No, non so. Oddio, cazzo, non mi ricordo se era presente Zanzan o meno. Sì, c'era Zanzan quando l'ha incontrata on the way C'era dalla Zanzan. centrale. C'erano Gideon, Infatti, no, Adrone Zanzan era. Ah, e erano Gideon Tristan. e Ludolf. Sì, scusami. Stavo parlando Ivan. di. Oh, niente, dovrebbe essere Maria che ci sto parlando, quindi boh, diciamo, Naya sta bene. Posso sentirla un attimo? Dentro. Va bene? Dovremmo chiedere a Naya se voglia. Aspetterò. E non vi Ok. dà il giornale né i manapenny. Ehi, ehi, dammi una Ok. penna. Ho fame. Puoi aspettare un pochino. No, thank Ok. Ivan va a chiamare Naya. Volete interagire? Volete farla voi? you. Naya, hai voglia di parlare con questo soldato che c'è di fuori, è la tua amica Maria? di... Ce n'è che sta bevendo il caffè, fa tipo... Non Infuso. caffè. Non esiste Cazzo, più il è caffè. vero. Disintegrato. Scusate, Immaginarmi sono... come Errore, sta cosa. errore madornale. D'accordo, Come d'accordo. latte... Janet di The Good Place. Not coffee? Not Latte coffee. caldo, latte Latte caldo ce caldo. l'abbiamo, latte caldo. Dio porco, Naya. Hanno due effetti totalmente differenti. Ma... Ok, Allora, c'è cioè che beve il latte caldo e gli va un attimo di traverso e si alza e dice sì, certo, è fuori. Sì, guarda che se non hai voglia di parlarle, posso dirle di, che sta riposando. No, perché? No, no, no, okay. Mamma, va bene. Ok. Ciao. Ciao, Eddie. Ciao. Ciao, Eddie. Ciao, Eddie. Quindi Naya esce fuori e vedi che c'è Zanzan livoroso, è un termine adatto? Livornese? Livornese. Cos'è il Livorno? Non felice della situazione, va meglio. Un po' accigliato. Ah, ok, grazie. E c'è fame. Maria, che l'hai riconosciuta, però lei si toglie anche la sua maschera col becco e passa il giornale, i manapenni a Zanzan tramite una fessura nella barriera, diciamo, che viene creata una volta al giorno per fare questa attività e poi si richiude. Ok, c'è proprio un procedimento per farlo che non è importante, quindi non approfondiamo. Zanzan, hai tutti i tuoi materiali importanti per fare quello che vuoi fare. E intanto ho Maria e Naya che dai due lati del vetro, che è come se fosse un vetro trasparente, è una barriera, si guardano e lei ti dice: stai bene? Ti sei ripreso? Sono sì, piano piano, molto lentamente sì. Tu invece come stai? Bene, è stato solo un graffietto per me. Ha preso 24 danni da tuono. Ma noi non lo sappiamo! Non lo sapete. Non lo sa nessuno. Sì, sì, sì. E Nai dice: ah, bene, dai, sono contento. E il tuo collega, quello biondo? Credo che al momento è in una struttura per evitare che faccia dei danni quando arriverà la sua fine. Mi spiace. So che tu sei più sensibile di me per queste cose. Senti, passerò anche domani a portarvi il giornale, quindi se ti serve qualcosa cercherò di portartelo insieme al resto. No, grazie, ma non penso. Hai forse sentito gli altri come stanno? Lonera stanno bene. Abbiamo usato la posta prioritaria per comunicare con loro e non hanno nessun sintomo, sono comunque sotto osservazione, ma al momento stanno tutti bene. Grazie, sono... Tua zia non è raggiungibile, abbiamo provato a contattarla in vari modi, ma si vede che è in un luogo dove è difficile inviare messaggi. Mi avevano detto che era andata in un viaggio e sarebbe tornata per un po'. Però grazie comunque per averci provato. Di niente. Si rimette la maschera, fa il saluto militare e se ne va. Insieme all'altro tizio che è stato zitto per tutto il tempo. Bene. Fine di questa bellissima scena che, a meno che voi non vogliate parlare tra di voi, si intende, di quello che è appena successo. La colazione per tutti, chi la vuole? Come Jin. Cosa, Ion? Non mi sta particolarmente simpatica sta Maria. Come mai? Te lo chiede Naya. Feeling. Quanta lunch. Feeling. No, andavamo all'università assieme. Poi ha cambiato. Com'era l'università lei? Naya! Qui ci pensa, ma non se la ricorda tantissimo. E dice che no, abbiamo fatto un viaggio studi insieme una volta con mia zia e altri due amici, Mife e Ian, e poi ha cambiato un po' corso di studi e si è arruolata. Batu è diventata fascista, ok. Batu, che era lì, come abbiamo detto all'inizio, sono fuori in giardino, Eddie, per darti un po' di vibe check. Grazie, mi serviva. gli altri sono dentro. E dice: viaggio! Aspetta, in giardino fuori siamo chi? Batu, Eridor, Ivan, Zanzan e Naya. E cosa state facendo, okay, con l'azione? No, quattro di loro erano lì a bazzicare. Ah, e Naya è stato chiamato da Maria per comunicare. Per comunicare. E Batu chiede: viaggio dove? E Naya dice: in Nadiria. Quanti di voi sanno di cosa sta parlando? Irl. Eddie, no, che non c'è. And the zit. Basta, penso. Esatto. Ok, la Nadiria è il luogo più a sud del mondo ed è il luogo dove ci sono allegedly i mostri più pericolosi del mondo. Dico allegedly perché mentre dalla Gulakka qualcuno ogni tanto ritorna e il nostro caro Batu viene dalla Gulakka, territori berber c'è un sacco di gente che va e viene e il nostro Zanzan ne è un esempio, dalla Nadiria in genere non parte e non torna nessuno. Non avete mai visto una persona della Nadiria, ok? In molte lingue è un eufemismo per dire vado a morire, / vado all'inferno, cose del genere. Come il Friuli. Ognuno ha il suo posto, io avrei detto altri posti, ma non li ripeto, non li ripeto. Non ho motivo di ripetere Napoli. E quindi, che sempre perenne inizia. E quindi Batu è tipo, scherzi? Batu ti guarda perplesso e non dice altro. Naya sorride. È calato il geno, okay, tra Erendor, Ivan, Zanzan e Batu. Bene, sono contento. Perché dovevi scherzare? Noi era a raccogliere rocce, cioè, quindi... Ah, scusami, errore mio, errore mio. C'è Erendor che sta farmando. È nel grind. Non mettiamo... Erendor sta scavando il fossato, esatto, con il cucchiaino di plastica. Beh, sì, hanno aperto le rocce sulla... No, comunque... No, comunque c'è... Naya è tipo... Ehi, sì. Perché che io sto scherzando? Posto pericoloso. Sì, ma c'era mia zia Promezia che comunque faceva da garante per tutti. È una maga. È una necromante potentissima, quindi comunque. Non abbiamo avuto problemi. Batu. Ok. Zanzara reagisce così. Batu reagisce tipo: ho capito tre delle parole che hai detto. Tutte le altre no. Però non lo dice, cioè non ha il lessico per poter comunicare. E quindi tipo: Zanzana, Naya dire pensa qualcosa? Di non essere molto interessante. Zanzan ha ripetuto il nome. Somiglia a un nome che conosce, però è tipo... Bislacca questa gente. Già sono i nomi diversi. Gli effetti su 5 berber che abbiamo presentato, 2 hanno lo stesso nome. Vabbè, io, pensiero mio. È andata via Maria? Sì. Ok. Come hai detto che si chiamava tua zia, scusa? Promezia. Promezia Petri. Promezia. Perché? La conosci? No, è solo coincidenza, ragazza. In che senso? Sembra che tutti nel gruppo abbiamo a che fare con una persona che si chiama Promezia, almeno quasi tutti. Io anch'io conosco, cioè, una persona che si chiama Promezia. Qua ho clicca, non è così, cioè, abbastanza strano. Scusate, devo fare una domanda. In che giorno siamo qua? Siamo nel... Terzo. Sì. Terzo giorno. No. Secondo. No. Perché questo è il flashback. Abbiamo questo tirato flashback indietro di un giorno. Sì, è il flashback. Secondo giorno, grazie. Scusami. La lasciamo questa di canzone, La lasciamo per un attimo perché mi sa... Vai. Ah, è il 3 ottobre, scusami. Sì, secondo giorno 3 ottobre. può anche rimanerti in testa questo pensiero e farlo più avanti, se vuoi. Ok. Va bene. No, scusa, non è ancora successo quello che è successo a Naya la sera? Infatti. Ok. Quello è dopo. A posto. Ok. Questa è la fine del flashback. Se nessun altro vuole fare nient'altro nel flashback. Cioè, non era una roba importante, era solo per consegnare i giornali. E l'altra cosa che volevo menzionare era... che Ren di nuovo ha preso circa 4 kg, a giudicare dalla quello che dice la... Come cazzo si chiama? La bilancia, grazie. Bilancia. E inizia a muoversi in modo quasi meccanico, cioè è come se i suoi joint si muovessero con degli angoli precisi. È super sluggish, ma soprattutto chi ci dorme in camera insieme nota che passa quasi tutta la notte sveglia. Ok. E questo era un giorno. Questa è la sera per il giorno in cui Naya esce di testa. Sì. Correcto? Quindi succede quella roba lì, flick, e arriviamo al quarto giorno. Cioè al terzo giorno, al 4 ottobre, pardon. Avete il giornale di questa mattinata. E questa volta... No, questa volta lo portano dei soldati generici. Quindi nessuna interazione con Naya. Fine tutta la giornata, che è... sono i roll che avete fatto, tutte le robe che avete fatto. Arriva la sera e siete tutti riuniti per la cena. Ed è dove abbiamo lasciato l'ultima sessione, in realtà, credo. Sì, allora... Quindi ora siamo tutti caught up con i vari piani, sì, esatto. I vari scheming e tutte le robe. Ok, perfetto. Siete tutti a cena. Avete anche già fatto i roll, già fatto tutte le robe. Quindi siete anche stanchi per chi ha preso fatica quel giorno. Dimmi tu, Gideon, se vuoi fare qualcosa con l'asse strano che hai visto, perché è successo oggi. Sì, volevo investigarlo. Ok, sembra che questo pezzo di legno, che sarà lungo un metro e mezzo e occupa quindi metà dell'altezza del capannone, sia diverso da tutti gli altri. Cioè che gli altri siano stati fatti tutti insieme più o meno dallo stesso legno e montati insieme, mentre questo sia in più, tipo a sostituire un asse rotto, una cosa del genere. Sento qualche tipo di magia. Sì, è effettivamente imbued con qualche forma di magia. Ok, riesco a capire cosa. Di preciso devi farmi un roll. Sì, di arcano. Vai, vai. Allora, arcano 2. Aspetta che lo recupero. Vai, facci sognare. Di 20 o di 10? Di 10, 10. No, è solamente un feeling che ci sia qualcosa di più in questo coso. Prova a toccarlo. Sembra che abbia una leggerissimo effetto per cui quando lo sfiori il punto in cui passi il dito rimane di un colore più chiaro, come se fosse pelle. È presente che sulla pelle quando passi il dito, se lo fai con la forza giusta, rimane il segno. Solo molto delicato, ecco. Quanto è grande questo asse di legno? Un metro e mezzo, largo 60 centimetri, 50 centimetri. Posso provare a tirarlo via o serve un attrezzo o qualcosa? Servirebbe qualcuno più forte di te per essere okay, blunt. Allora... Vado, posso andare a recuperare Ivan? Sì. Ok. Vai, ruola. Allora, vado, rollo? Devo... No, devi solamente dirmi cioè, quello che vuoi dire a Ivan. Non so cosa sta facendo. Sta provando a imparare a leggere, quindi è in compagnia di... Cioè, sono tutti al secondo piano, in aula studio, diciamo. Gli tocco sulla spalla e chiedo se ha un attimo di tempo libero. Certo, lo seguo. Ok, più facile. Adone, sei anche tu nell'aula studio e sì. È qua che hai avuto il flash, il ricordo di quell'oggetto che aveva trovato Gideon. Se vuoi interagire con lui in qualche modo, ti consiglio di farlo ora, altrimenti più avanti. Infatti lo vorrei fare. Scusami, quindi siamo tutti lì, arriva Gideon e vuole portare via Ivan. Sì. Esatto. Non tutti, però... Ok. Vedi un attimo, vedete un attimo che Adone si alza, cioè non di scatto, semplicemente si alza un attimo e dice: ah, Gideon, prima che tu te ne vada, volevo chiederti una cosa, se non ti dispiace. Possiamo fare più tardi? È veloce, volevo semplicemente chiederti se avessi ancora quella pergamena che hai trovato nella libreria. Ok, guardo un po' sospettoso. Sì, perché? Mi interessava. Ho trovato dei libri interessanti al riguardo. Non riguardo alla pergamena, però me la ricordavano. Volevo chiederti se potessi darci un'occhiata. Nulla di che, te la ridarrò appena avrò finito. Devo solo darci un'occhiata. Gideon è un po' sospettoso, ma te la dà. Okay. Te la dà. Ok, quindi facciamo le due scene in parallelo. Ivan vieni trascinato fuori dal capannone. C'è appunto un asse che anche tu a occhio nudo vedi che è diverso dagli assi a fianco di legno. Sì, sì, gli chiedo proprio, lo vedi anche tu? Sì, è diverso dagli altri assi. Strano, perché tutti gli assi sono abbastanza normali, cioè spicca molto, diciamo. Riesci a darmi una mano a toglierlo per vedere cos'è? Posso prima capire se è un materiale che conosco. Rollo di 10. By all means, se tu riesci a capirci qualcosa. Che legno. Ni. Dammi un attimo. Perché ovviamente a te farti fare un roll di arcano è una cattiveria. Investigare? Boh. Comunque anche proprio facendomelo uscire dal buco, no, del culo. No, è un materiale, quindi tecnica. Tecnica no. È tirare freccette. No. Comunque diciamo che volendo essere molto gentili arriviamo a 7. Per cui posso dirti che ti ricorda qualcosa con cui ha a che fare tua moglie. Quindi c'ha quel vibe di pianta modificata con la magia. Ok. Non sai i dettagli. Potrebbe avere, gli dico, sembra strano, potrebbe essere qualcosa del ripeto più o meno questa cosa. E gli chiedo se vuol dire che è pericoloso, io non so niente di botanica o altro. Di solito le cose che con cui ha a che fare mia moglie non sono pericolose da toccare. Solitamente. Ok, che ne dici se proviamo a tirarlo via e chiediamo anche agli altri se ne sanno qualcosa? Dai, si può provare. Ok. Rollando 10 per sradicarlo. Io non so, io faccio... Vai, ti do tiro propizio perché ti dà una mano Gideon. Tirane un altro, vediamo qua già. Addirittura. Ok, 5 andava bene. Però hai più 4 a questa roba qua, quindi hai fatto 9, che secondo me basta. Sufficiente. Mm-hmm. Riesci a strapparlo e in realtà nello strapparlo si piega leggermente, ok? Mm. E però quando lo stringi in mano, quando lo tieni per vedere cos'è, vedi che ritorna alla sua posizione normale da solo, cioè ritorna ad essere un asse straight. Mm-hmm. E sotto cosa c'è? Sotto c'è un cazzo di niente, c'è l'intelaiatura del capannone e si vede l'interno del capannone. Ok, ovviamente. Sì, sì, sì. No, niente, non dico niente. Avete questo oggetto qua. A chi lo segno? Volevamo portarlo dentro e appoggiarlo sul tavolo davanti okay. agli altri, cioè okay, chiamarli okay. e vedere. È un asse da 1,5 metri. Vabbè. Guarda, ho trovato questo. Uno stuzzicadenti. È un'ottima cosa da discutere la sera. Ma intanto andiamo al nostro Adone, che ha tirato fuori, hai srotolato la pergamena. Mm-hmm. E io credo che tu non l'abbia mai vista una cosa del genere. Per cui vuoi farmi un roll? Pronti. Hai qualche idea più fantasiosa di fare un roll? Allora, a meno che Silas non abbia fatto ricerche di questo tipo, il mio amico alchimista non abbia fatto ricerche di questo tipo, e la mia amica necromante abbia fatto ricerche di questo tipo, non mi tiro fuori dal culo che guarda caso un amico che ha studiato questa cosa specifica. Bene. Quindi, I know a guy. Esatto, conosco un amico che... No, direi, cioè, non me le tiro fuori dal culo. Direi, ok. Di roll e basta. Perché poi ho una cosa da proporti, però intanto direi che rollo, cioè la osservo, la guardo. Vai, un di 10. 5? Ma cazzo, è la giornata dei 5 oggi? Sì, davvero. E credo che in realtà no, perché è proprio una fottutissima lingua di merda, quindi è tipo... Non so qual è per la cultura generica. Dialettica, non c'abbiamo cultura? No, sì, è cultura è puro, quindi è più 2. Sì, è un mi verrebbe da dire 7. Storia. Ah no, okay. Storia ci sta, però è comunque 9. Va bene. E no. È proprio... Allora, io avevo mandato una roba a Rox e ora la recupero. Comunque sono delle linee. Ok. Un sacco di linee in mezzo e dei puntini, okay, ogni tanto, e non capisci un cazzo di questa cosa, cioè non capisci proprio neanche come va girata. Ogni tanto. Ok, però ti dico, allora. Vai. Osservazione. Tecnicamente Adone conosce i linguaggi antichi, soprattutto magici, ovvero meglio, è un po' un linguista, forse potrebbe in qualche modo capirne, e in ogni caso volevo chiederti se posso provare a usare Every Talk. Allora, Every Talk è per parlare con qualcuno. Ah, ok, per parlare che... basta, sì, esatto. E... No, l'altra cosa è che, questa è un'ottima osservazione, nonostante il background di Adone, non l'hai mai vista sta cazzo di lingua. E se vuoi dedurre qualcosa tu da questa informazione, fallo, altrimenti hai semplicemente... Quanto deve essere vecchia affinché Adone non abbia mai visto un linguaggio simile e non conosca linguaggi simili per fare la comparazione? Allora, linguaggi perché... vecchi, cioè di una questione temporale... Non è data, cioè non esiste. Ok, certo. Ci sono proprio le iscrizioni sulle cazzo di caverne al massimo che non capisci. Certo. Quindi vuol dire che proprio non viene da qua. Questo this much you can say. Ok. Adone non credo abbia fatto robe comparate, cioè ha fatto solo quelle... No, tecnicamente, cioè comparate con l'età moderna e quella antica. Esatto, quindi non... al di fuori della fottutissima Solveria, quello che intendevo dire, quindi... Ok, allora aspetta che mi segni questa cosa. Sì, vai pure. Io direi che possiamo... se nessuno... cioè, queste due scene erano... perché dei roll erano uscite delle robe, ok? Mm-hmm. Quindi, questa è finita la parte di flashback e possiamo andare direttamente alla sera e quindi essere nel presente. Tutto ok? Ok. Benissimo. Ok, un altro ticchettino alla nostra bellissima segnatempo e arriviamo alla sera del terzo giorno. Siete di nuovo tutti a mangiare. C'è l'asse di legno che hanno trovato Ivan e Gideon lì, a disposizione. Adone, devi restituire la pergamena. Infatti, prima cosa che fa Adone appena siamo a cena, appena ci arrivi tu, Gideon viene a ridarti la pergamena. E fa grazie per avermela prestata. Gideon è un po' sorpreso del fatto che gliel'hai ridata senza problemi, ti ringrazia e la rimette via. Okay. Bene, scusate, prima l'asse, poi chiedo il resto. Ok. E Adone va a sedersi, però scusatemi ma Adone credo noti una fottuta asse nella stanza da pranzo. E tu stuzzicadenti? Dice, si è rotto qualcosa? No, è strana, non la vedete? Provate a toccarla. L'ho già toccata, non fa niente, però provate a toccarla. Fatemi, voi a parte... Vai, scusate, volevo interrompere. Sì, avete idea di cosa sia? Non la tocca, non tocca più le cose a caso. La tocco io per far vedere che non fa niente. A parte Gideon e Ivan, tutti gli altri mi fanno un roll di arcano. Sì. Oh no, anche io! Capito che Vivene l'abbiamo trovata nel fienile di fuori, era un asse normale. Non hai idea di cosa sia. Non hai mai visto un pezzo di inibitore. Facciamo che Adone 11 e niente, sei stressato. Non tiro propizio. Dai, secondo me Adone e Zanzan ce l'hanno. Però sì, però addirittura secondo me sì, però se riusciamo a farlo senza è ok, cioè per la tua soddisfazione personale, se volete farlo doppio ve lo faccio fare. No, però poi mi deve valere, perché altrimenti mi incazzo, perché magari faccio 10 però non vale e allora bestemmio, quindi decidi tu, Vianic. Ti direi comunque questo è Adone che analizza l'ass. Yes, it would. Porco Dio. Allora, no, 11 direi che basta. Chi è più stupido tra... Cioè, chi è dei due che lo prenderebbe e proverebbe a fare una cosa del genere tra Erindor e Naya? Fare una cosa del genere? Cosa? Prenderlo e fare... Ah, io... No, non tocca più le cose strane. Ok, allora è Erindor che ci riesce. Vedi, bastava un 10 fatto da una persona... Perché nel dubbio lo convertivo in gold, quindi nel... Posso convertirlo in gold? L'uomo con un piano. Quando lo afferri... Ora, tu hai presente come funzionano le robe alchemiche, quindi fai... Sì. Tipo, gli passi l'energia per attivare una roba alchemica. Probabilmente nel farlo sbagli qualcosa. E... questo asse di legno inizia a diventare vivo, nel senso gli crescono dei rami. Ok, wow, mi prendo un secondo. E cosa sta facendo adesso? Niente, ha tanti rami adesso, con le foglioline, tante cose, dei rami. E i rami sono vagamente sbrilluccicosi. Vagamente. Oh. Posso controllare se ci sono delle maledizioni su quell'asse di legno di merda? Ci sono maledizioni sull'asse di legno di merda. Adone si avvicina. Domanda. Fa il collegamento con quello che è successo nella sua luna di miele o non c'entra un cazzo? Fitomagia. Un pochino. Fitomagia, generale. Ok. Allora, che è la magia dei funghi? Vero? Delle piante. Delle piante, grazie. Adone si avvicina e domanda così: perché dovrebbe esserci un asse di legno magica che se la tocchi reagisce in questo modo? Cioè, c'è un incantesimo sopra? Dove l'avete trovato intanto? Nel fienile di fuori, era in mezzo a tutte le altre assi completamente uguali, non c'era nient'altro. Così? È un asse magica fra le assi? No. Perché? È quello che volevo chiedere a voi. Probabilmente uno scemo l'avrà scambiata per un asse e l'avrà usata per riparare qualcosa. Come fai a scambiarla per un asse se quando la tocchi fa quello che... e poi indica... Non tutti siamo... i rami che poi non tutti sono eruditi come te. Tra l'altro l'ha fatto solo adesso, cioè prima con Ivan e Gideon non l'ha fatto di cagare i rami. Dimmi. Ho un'idea del cazzo. Diamo fuoco all'albero magico. Yes, Adone vuole tirar fuori. Aspetta, no, fermo, non gli dà fuoco. Io voglio vuole tirar fuori la propria bacchetta e provare ad avvicinarla all'asse per vedere se reagisce. Non ci sta dando fuoco. Ha un fiammifero vicino. Ok, non succede niente di rilevante. Cioè, come ti dicevo, quando lo tocchi con qualcosa è come se fosse pelle, quindi c'ha quella reazione lì. Ok, però basta, solo quello. Naya prova a prendere l'asse anche lui, vaffanculo. Lo strappi di mano a Erindor con cattiveria e odio. No, mai! Posso provare anch'io? Non sembra cattivissima. Eri tu quella che fino a 2 minuti fa non voleva toccare nulla. Ho cambiato idea, posso? È sassi, Erindor. Oggi sì. Ti ho svegliato... Non l'ho dato sbagliato. Non fa nulla con Ivan che lo fissava. Cioè, sembra che una volta che sono cresciuti questi rametti è finita la cosa. Posso, cioè, i rametti sono solo cioè non fanno niente, sbrilluccicano, hai detto? Sì. Nel senso che hanno polvere sopra o che sono... No, nel senso che sono tipo, hai presente quelle cose un po' fosforescenti che se stai sotto le coperte le vedi, ecco, le vedi luccicose. È fatta fatta di uranio. Fatta di uranio. No. Non è fatta di uranio. Lanciala. Io nel mentre che lo tiene proverei a spezzare un rametto. Ok, quando spezzi il rametto, la cosa che ti rimane in mano, quindi il pezzettino di fogliolina e di legno, si sbriciola come se fosse polvere. E subito dopo il rametto fa crescere una nuova fogliolina, un nuovo pezzetto di ramo, pari a quello che hai strappato. No, aspetta, non ti ho sentito. Cos'è che gli ha fatto? Ha strappato un rametto e quello, il pezzo che ha strappato si sbriciola, diventa polvere. Mentre dall'asse di legno ricresce un pezzetto di ramo. Nella mia mente iniziano a girare ingranaggi su come esploitare questa cosa. Ma se cosa fosse tipo uno scudo o una roba del genere? Cioè... Aha, Zanzan scappa tipo un altro rametto. Vediamo se c'è un limite. Aspetta. Ma poverino, li ha appena fatti crescere. Aspetta. Ho bisogno di controllare la scheda di Zanzan per una cosa che è molto stupida. Niente, perdonatemi. Uccide Naya strappandogli via la settimana. Prosegui. No. Non credo sia una buona idea continuare a strappare rami. Vediamo quanto regge nella nostra vita. Dall'asse magica. Tanto che quando non c'era la televisione ci si divertiva con poco, eh. E Naya la rida a Erin. Prova a farlo di nuovo. Esatto. No, nel senso prova a farlo crescere, dico, non strappare. Farlo. In che senso farlo crescere? Vabbè, e quello che lo hai fatto prima. Non ho fatto niente. Vabbè, lo riprendo comunque. Non solo non hai idea di cosa hai fatto prima, ma ovviamente non sei in grado di ripeterlo. Esatto. Ma Bianche, posso provare a capire che incantesimo c'è? A questo punto Adone dice, se volete provo io. Vai. Quando Adone prende questa cazzo di cosa, ho controllato le schede, i rami crescono di tantissimo. Crescono tipo è un metro e mezzo e c'ha dei rametti di 5, 10, 20 centimetri. I rametti diventano un metro di lunghezza. È tipo una scopa. Nostromana? Ma aspetta, Adone. Ma no, raga, non voglio vedere. Chi l'ha toccato prima erano uno che fa uso di magie naturali e l'altro che non ha magie, non è addietto alla magia. L'abbiamo toccato noi e improvvisamente diventa... Mi sento stanco, cioè mi sento privato di mana? No. Mi sento privato di mana? Scusami, come la devo dire? Ma no, ma magari non è necessariamente che si drena, semplicemente è qualcosa che cresce in base al... Prova a darlo a qualcuno senza, ma... Esatto. Tieni, Ivan. Quando... Ok. Ivan l'ha già tenuta. Zanzan. Sì. Tieni, quando... Zanzan lo prende. Quando prende l'asse... Madonna, con queste cagate io posso tenervi occupati per delle ore. Bellissima. Sta... Giorni! Quando Zanzan prende l'asse di legno... Tutti i rami si shrinkano fino alla dimensione che avevano prima che li toccasse Adone. Oh, Zanzan è molto triste. Tu sei come noi. Naya ti fa un pat patere, tipo anch'io, lo so. Ok, va bene. Tienilo di nuovo e lo ridati fa ad Adone. Non credo che... No, Adone non lo prende in mano. Dice, okay. Non voglio rovinare la stanza. Batu? Beh, Baru. Batu lo prende in mano, lo guarda e dice... Non dice niente, scuote la testa e non succede nulla. Perché scuoti la testa, Batu? Io non felice di magia. Ah, ok. Al di là di quello che fa o non fa quest'asse, qualcuna idea? Non credo sia una cosa di cui ci dovremmo preoccupare più di tanto, anche se sarei curioso di capire perché faccia. Io lo vorrei far toccare a Keyel. In modo... Keyel, che finora vi ha guardato divertita, prende l'affare in mano e la cosa rimane con la sua lunghezza base. No, credo di averlo scoperto. Devin, tocca a te. Devin non vuole far parte di questa cosa, ma come ben sapete è facile convincerlo, basta minacciarlo. Ehi, prendi questo in mano. Per favore, Devin. Va bene. Devin prende in mano l'asse di legno e la luce che emette diventa molto più intensa. Contenti? Più intensa di quella di Adona. Quindi magari risponda non al mana, ma alle caratteristiche di ciascuno di noi. Quindi io dovrei essere una lampadina, tieni. E lo cede al primo che lo prende. Carl! Vabbè. La lampadina meno brillante. Carl non è qua. Carl, quindi Lance! Carl! No, vabbè. Rimango, non è nella stanza con noi. Sì, se è nella stanza con voi, lo prende, non succede nulla, i rami rimangono molto shrinkati. Cioè, come tutti, tranne Adora. Manca Ren, manca a sto punto. Lo fa diventare maligno. Ren non è in stanza con voi perché ha letto. Le porta il bastone, che è molto interessante, glielo voglio far vedere. Sei carino, Zanzara. Cosa devo fare? Calo, prendilo, tieni. Lo prende e non c'è nessun effetto strano da parte del bastone. Oh. Ok, bene. Bella. Lo riporto di là. Non è successo niente, non è successo. Poverina. Zanzara, dove sei andato? Sono andato da Ren, però non è successo niente. Come sta Ren? 5 kg di più. Non bene. Mi dispiace. Anche a me, infatti dobbiamo probabilmente concentrarci sull'uscire. Non sul bastone, I guess. Però è bello il bastone. Improvviso momento di self-awareness. Tutti che... Yeah, someone is dying! Oh, it feels bad. Tag reminder. Qualsiasi Carl, capendo che state... parlando di argomenti seri, dice: vado a occuparmi di Ren, ha bisogno di qualcuno che le stia vicino, le porto del cibo, magari la convincerò a mangiare. Grazie. E poi fare anche il bastone, sai, carino, tieni. Lo usa come vassoio. Non è per il cibo, grazie Rox, era quello che pensavo anch'io. Vassoio. Carla trova la sua nuova aspirazione, il cameriere. Per un vassoio è lungo 1,5 metri, scusate. È stato nell'esercito proprio per riuscire a sollevarlo. E Carla si defila. Devin prende la parola e dice: visto che l'argomento si sta facendo più serio, sì, potrebbe essere il momento giusto di mettere in chiaro qualche punto per la nostra uscita notturna di domani. Io, Keyel e Batu siamo ancora legati dal contratto della centrale, quindi non parlate dei segreti della centrale. Ah, anche guardiamo se qualcuno all'esterno di noi, ti viene triggerato comunque per i dipendenti? Dipende. Se diamo qualunque indizio su qualcosa che non dovremmo dire, sì. E non tutti hanno la faccia di bronzo come Keyel. Letterale. Ok. Che se la ride, cioè non si offende per queste cose. C'ha la pelle dura. Basta. Sì. Ne abbiamo fatte due, ora... Too soon, non è ancora. Sì. Vero. Soon executus. E quindi Devin vi spiega quello che ha raccolto finora, ed è... Eidos credo stia cercando di curare la principessa usando un artefatto. O uno strumento, insomma un oggetto che tiene nella mano, e credo vada a ricaricarlo alla centrale, perché comunque si reca sempre lì prima di andare alla cattedrale, e poi lo nasconde in una casa qui vicino. Questo è il grosso di quello che so. Come forse avete visto l'altro giorno, io non mi fido del maggiordomo e credo che stia preparando qualche colpo di stato o roba del genere. Insomma, voglio sapere la verità. Che forma ha l'oggetto che tiene in mano? Riesci a vederlo? No, perché non è parte di Eidos, quindi vedo solamente che è sferico e credo faccia luce. Ok. Comunque è un oggetto di piccole dimensioni. Sì, gli sta in una mano. Ok. Purtroppo non vedo bene al di fuori di lui. No. È un'alchimia spettacolare. In che senso lo vedi? Ho creato uno strumento per il governo che mi permette di spiare le persone che lo attivano. Ti ricordi quando mi ha tirato un pugno in faccia? lo ha attivato. E da quel momento vedo tutto quello che fa. O l'according to Keikaku. Esatto. Ma lo vedi in che modo? È come se avessi... quando chiudo gli occhi è come se vedessi una stanza nera al centro della quale c'è lui. E quindi ho un'idea di dove sta andando, di quello che sta facendo, ma tutto ciò che lo circonda è molto annebbiato. Ok. Ma quindi lui lo vedi chiaramente? Sì. C'è qualcosa di strano nei suoi occhi? Ha una magia sugli occhi, suppongo, però non vedo cosa nasconde questa magia, non la toglie mai. Perché? Perché quando abbiamo incontrato è una cosa che... che era abbastanza... cioè, che, sta... che ho notato. Ok. Mi sembrava fosse una magia abbastanza... di livello abbastanza alto. Ho sempre pensato fosse una cosa per amplificare le sue capacità visive, per fare meglio il suo lavoro, però in effetti potrebbe essere che nasconde qualcosa. In che senso hai sempre pensato? È una figura mezza pubblica, Eidos. Ah, okay. Da queste parti. Da queste parti è famigerato, se non famoso. Hai fatto un articolo scandalistico su di lui una volta alla settimana. Ok, passando invece alla parte un po' più tecnica, ripetete quello che avete ideato tu e Kayel, per favore. Quando Kayel scioglierà tutti i nostri contratti, potremo uscire di qua indisturbati. Abbiamo circa tutta la notte per fare quello che dobbiamo fare, dopodiché realisticamente ci troveranno. Inoltre, la magia di Kayel ha degli effetti collaterali che non ci riguardano, ma diciamo che domani saremo sul giornale. E... in che senso? Non c'è, cosa non te lo dire? Posso dire. Oh, ok. Evitiamo di fare un'altra vittima. E... mamma mia! Oltre a questi aspetti... quello che vogliamo fare è semplicemente andare nel posto dove Eidos sta nascondendo la roba. Qualcuno rimarrà a fare la guardia e sta guardando Batu mentre dice questo. E noi altri invece andremo tutti insieme. Se non sbaglio riusciamo a coprire un po' tutti i settori. Abbiamo un taumaturgo, un esperto di magia naturale, guarda Zanzan ed è tipo le braccia. Sì, è già nato tipo il pollice. Uno stregone c'è indica... c'è. Uno stregone indica Gideon. Un esperto di robe tecniche e indica Ivan. Insomma, siamo un gruppo che riempie tante lacune. Quindi qualunque sia questo artefatto dovremmo riuscire a recuperarlo. Così Zanzan potrà curare Ren, io potrò scoprire la verità. E non so cosa volete voi. Beh, scoprire la verità è sicuramente una cosa interessante, però noi abbiamo la certezza che se questo artefatto non dovesse rivelarsi qualcosa di pericoloso o un segreto di Stato, chiamiamolo così, verremmo effettivamente a tutti gli effetti, diventeremo dei criminali. Devin non è bravo a nascondere le sue emozioni, per cui sei tipo... è tipo... sì, sicuramente tipo... sicuramente non ci saranno problemi. Perché dovrebbero. Ma mi piace questa cosa così tanto. Come? Perché vuoi sapere questa cosa così tanto? Cioè, beh, sono abbastanza ossessionato dalla verità. A parte quello, e poi non sopporto l'idea che l'impero finisca nelle mani dei deficienti come Eidos. Quindi per... per un... ripicca? E ce n'è anche una crisi esistenziale. Lui ha un tic nervoso all'occhio. È tipo... non riesco a farlo. È difficilissimo fare il tic nervoso all'occhio di proposito. Cioè, è una roba veramente contro natura. Quindi devi immaginarlo. Se avessi la webcam te lo farei io. Cioè, lo faccio a fatti trick. Spettacolare. Quando prendo un nago e comincio a punzecchiarmi il nervo hot, non lo farò. Body horror. Comunque, quindi tu sai il prezzo punto... che dovevo pagare per questa cosa e sei convinto che ne valga la pena? Per me ne vale sicuramente la pena. Io dico, beh, meglio criminali che essere costantemente... che tratti da laboratorio. Boh. Esatto. In effetti non abbiamo molta scelta, cioè siamo qui. Come dicevo, una volta che i contratti saranno sciolti potete anche andare dove vi pare. Scappare quando non siete legati da niente dovrebbe essere relativamente facile. Ma effettivamente perché siamo ancora qui? Cioè nessuno di noi è... palesemente nessuno di noi tranne Ren, purtroppo infetto. Che Yelle tipo... Eppure già. Vabbè, che Yelle ha già fatto il secondo stadio, quindi... Probabilmente sappiamo troppo e siamo... ci vogliono tenere qua. Forse qualcosa sta succedendo in città, chissà. O temono che uno di noi abbia causato tutto questo. Tra l'altro... Quindi se temono che qualcuno di noi abbia causato questo, vuol dire che qua siamo in pericolo. Che Yel aggiunge. Beh, solo chi l'ha causato per davvero. Gli altri potrebbero stare tranquilli. Among Us situation. Adone dà un'occhiata un po' a tutti. Il dilemma del prigioniero. E che Yel aggiunge. Io sono tranquilla. Oh, fuck. Beh, in ogni caso direi che da questa situazione, da questo piano, noi abbiamo solo da guadagnarci, credo. E vi guardo un po' tutti come per dire... Sì? Devin è... Vai. No, niente. Devin è entrato in un ciclo vizioso di pensieri e ora sta mumbling tra sé e sé. Però in effetti, cioè... di qualcuno deve essere la colpa. È partita dalla centrale, quindi qualcuno che abbia a che fare con la centrale, qualcuno che abbia a che fare con il problema che c'è stato. Ma chi può essere? Alla fine nessuno del personale sapeva niente, nessuno del personale poteva avere a che fare con questa cosa. Voi cinque non siete esattamente persone pericolose. Ci hanno arrestato tutti. Ludolf è morto. Strano. Ludolf è morto? Ludolf non è morto? No. Sì, è morto. È morto? Beh. È morto. Appunto. Quindi se è stato lui a causare tutto questo... Hanno già dato la pena di morte. E in ogni caso, come potrebbero effettivamente appurare chi è stato a causare tutto questo? Nel senso... Devin in silenzio scuote la testa. Capisco. Però le coincidenze erano veramente tante. Di quella giornata alla centrale. Dei vari malfunzionamenti, problemi e situazioni varie. Che Yel e Devin stanno guardando per terra. Sono tipo... Quali malfunzionamenti? Naya sta zitto. Non vogliamo parlare di queste strane coincidenze? Non credo siano le uniche. O meglio, non credo che ciò che è successo alla centrale sia l'unica coincidenza che unisce un po'... tutti quanti. E guarda voi cinque. Lei ha tirato fuori il giornale del 4 ottobre. e indica l'articolo sulla corona nera e il nome Promezia. Devin è tipo... Kiel è neutrale, cioè nessuna espressione, e Bato è tipo, io non leggere. Nea lo sta mostrando agli altri. Promezia, quelli sì, con cui ha avuto mezzo converso. Io non so leggere, devi leggermelo te. Non è il nome di tua zia. Naya che si siede accanto, Naya che si siede accanto e te lo legge. Te lo legge, ma in modo non tipo patronizing, ma proprio tipo ti indica le parole mentre le legge. Riesco a leggere Promesse perché è il nome di mia moglie, lo so leggere il nome di mia moglie. Cosa? E mia moglie? Altre Promesse. È pieno di promesse. Sto anche mezz'anno, inizia ad essere esterno. Come, scusate? Abbiamo Promezia Petri, Promezia... Non mi ricordo il cognome di Tea, però lo saprebbe Adone qual è il cognome di Tea. Beh, se ha preso... Oddio, non mi ricordo neanche io. È Bioni! Non è mica... No, abbiamo tenuto i cognomi. Siete moderni, mamma mia. Adone, sì, io prendo il suo di cognome poi. Adoni indica Naya, appunto, dice Promezia Petri, Promezia Alos. Talos, sì. Ok, Alos. Talos, e... Talos. Con la L, Alos. Con la... Talos! Lo scudo di Talos. Scusate. Grazie. Mi sono dovuto collegare Grazie, da... Rick. Mi sono dovuto collegare da The Tablet. Ok, ok. Ok, e poi indica se stesso e dice... Promezia Sefinia. Ora, io non so quanto a voi altri, e a quel punto indica Erindor. Lei indica Zanzan e Erindor, è tipo... Noi sappiamo solo Promezia. Noi conosciamo solo la Promezia e la Corona Nera. Ah, la che ci dobbiamo sappiamo solo il nome, Promezia. Sì, ma l'avete... Promezia, ma è un nome comune dalle nostre parti. No, è proprio vero. Vive oltre vabbè, dalle nostre questo. Parti da dove veniamo. Ah, ok. Sì. Scusa. Oltre il fatto che vive su un'isola fuori dal continente, quindi dubito abbia a che fare con qualunque cosa stia succedendo in città. Però capisci che non è... Lei è tipo collega un puntino lontanissimo, ma roba proprio tipo, cioè vedete una storia passare nello spazio nonostante ci sia il soffitto, è tipo Gideon Promezia, tua sorella più piccola. Sì. Ah, è... Conosci Mif Standout? Sì. Mind blow un momento. Unilaterale, tra l'altro. Sì, no, Gideon è tipo, ma sì, tutti la conoscono Mif. Viveva vicino al villaggio dove siamo cresciuti io e mia sorella. Se la conosci anche tu, ok. È un po' lontano da dove vivo io, cioè... Beh, è molto essere, lontano da dove vivo io. Potrebbe essere una casa di vacanza, per quel che ne sappiamo. Ma... Usite casa di vacanza? Se ti dico... Mostro del lago! Mostro del lago? In che senso? Naya è serissimo, cioè Naya è serio, cioè te lo sta proprio dicendo. Sì, ma non so se è una cosa che dovrei cogliere. Però l'ho 10. Porco Dio, ti prego. Facciamo prima. Perché c'è un volo pindarico che secondo me è assurdo. Godopoli! Quando i dadi fanno quello che serve! Tirane un altro. Dai! Eccoci qua. Okay. No, speravo di Rachain. Fai due collegamenti. Primo, tu hai visto qualcosa da piccolo vicino a un lago. Secondo, tanto tempo fa era venuta Mif a trovarvi e deve aver detto questa cagata qua a Mimi. E Mimi dopo un po' te l'ha ripetuta, però te l'ha ripetuta come, come stupida Mif che crede a ste cose qua. A cosa? Al mostro del lago? Sì. Ok. Cioè te l'ha detto in maniera un po' bonaria, come dire, no, crede al mostro del lago. Fine. Non ha detto mostro del lago, ovviamente. Ha fatto tutto un discorso che con un po' di fantasia puoi collegare a sta cosa qua. Ok. Però sta probabilmente parlando della cosa che hai visto da piccolo. Ok. Quindi è colpa tua se mia sorella crede al mostro del lago? Sei tu che hai raccontato la storia? E noi è tipo... Io non ho mai visto tua sorella! No, cosa? Però Mif ci ha parlato. Se tu conosci Mif e hai convinto Mif a credere a questa cosa... Non ho convinto Mif, Mif era con me! È colpa di Mif se proprio... No, no, lei non dice che è colpa... Lei dice... stavo pattinando, c'è anche lei! È lei che ha indicato le chiavi e poi, cioè... Non è colpa mia! Non sono io che ho detto di sì al risvegliare il mostro del lago! Ok, a questo punto Adone si interrompe, dice... Ok, uno di voi due deve... includere il resto del gruppo in questa storia, perché di quale mostro state parlando? Non lo cioè, so. Adone lo vedete confuso. Di che mostro stai parlando? A Branziga, davanti a casa di Mif, c'è un lago. Branziga è dove? Dove sì. Vicino dove? Okay. È la città più vicina al villaggio. Ok. Ok, vai avanti. Scusa, era out of game, era solo per quello. Ah, ok, scusa, io non stavo capendo. No. Il lago davanti a casa di Mif, quello piccolo, cioè, normal sized. E stavamo pattinando un giorno e Mif ha visto delle chiavi che le hanno ricordato qualcosa che è successo quando era piccola. E abbiamo provato a prendere le chiavi, solo che c'era una mano scheletrica dal fondo che le bloccava dall'essere pescate su, quindi... Ho usato Expel Evil per vedere un attimo se riusciamo a prendere le chiavi dal fondo del lago, solo che è uscito il mostro del lago, che è questo mostro scheletrico gigante che volava. A quanti anni questo? Chiede Adone. E niente la storia che ti ho raccontato. Il giorno prima. Ah, quindi non posso nemmeno giustificare una... innocenza da bambino per... Mi è venuto in mente di fare una cosa del genere? E soprattutto, come avete... Cosa è successo al mostro? È andato via. Come? Cioè, non come nel senso... Non l'hai inteso come tipo... Oggettivamente com'è che sei andato, ma proprio ad una sorpresa tipo... Come? In che senso? E lei tipo... Si è messo a parlare con me fino a una lingua che non conosco, quindi non posso aiutarti più di tanto, però non era molto contento di essere... Che dovrebbe aiutarmi con i miei sogni? No, riguarda quello che vi siete detti, Rox. Cioè ah, quello che sì, sì, scusami, ero tipo, scusami, colpa mia questa. Tipo, sì, lei... Vedi, Adone è molto poco convinto in questo momento, lo vedi poco fiducioso. Dice, vabbè, in ogni caso, appunto, c'è questo lago, abbiamo visto queste chiavi hanno ricordato Mifil una cosa del suo passato, abbiamo provato a prendere queste chiavi, questo mostro è attaccato, un mostro fatto di ossa con queste chiavi. Ci ha chiesto, non mi ricordo più cosa volevamo, penso. Quando dici ossa, Kael ha una reazione, però riesce a mantenere il controllo e quindi fa finta di niente. Però tipo... Ma viene percepita. Sì. Posso anch'io, in quanto stregone, fare il check per mascherare ogni reazione / emozione? Per me lo puoi fare senza check. Okay, perfetto. Allora rimango impassibile alla storia. E che cos'è che vi ha detto il mostro del lago? Ti ripeto, mi ha solo chiesto cosa volessi e poi ha parlato con Mif in una lingua che non, nella loro, cioè nella lingua locale di Mif, e non ho capito più. E tu cos'è che hai risposto? Non me lo ricordo, però era tipo Naya lo vedi che arrossisce, è tipo che i miei amici fossero sempre contenti e altre cose. Comunque Madonna che sì, dimmi Erindo. No. Dimmi Erindo, insegnami la violenza. Cringe. Give me one good reason. Mi sa che dovrò fare una bella chiacchierata con Mif quando la rincontro. Ma quindi tu sei l'amico di Mif? Wow, finalmente ti conosco. Non lo so. Parla un sacco di tua sorella. Può darsi che abbia più di un amico. Naya ti fissa dritto negli occhi e ti dice: non penso. Con l'amore nel cuore, tipo... Ma Zanzan, gli tornano queste cose di un mostro di cui stanno parlando? Allora, se non sbaglio, hanno detto che il mostro parlava, giusto? Hanno detto che parlavano, hanno detto che non li ha ammazzati straight up e che se ne è poi andato. Ok, se ti dicessero che sono andati a piedi sulla luna ci crederesti di più. Esatto, ok, quindi era... Naya oggi le sta sparando tutte, è stato in Nadiri, al mostro del lago, qualcos'altro, non gli date più un centesimo di credito, troppo. Oh, io qualche Naya mostro dice... ho visto. Oh. E Naya dice, comunque stiamo divagando. Il punto di discorso è che ci sono troppe cose in comune, fra cui il nome Promezia, e Naya indica se è Gideon. Questa è... cioè... quante sono le possibilità che ci incontrassimo? Statisticamente, due accademici che vanno a visitare una delle centrali più grosse non è così assurdo. Lo stesso giorno. E da dov'è che vieni tu, scusami? Isole. Io conoscevo già Adone comunque. L'abbiamo scoperto solo... cioè, ci se ne siamo ricordati solo dopo. E Zanzan e Erindor si conoscono anche fra di loro. Conoscono, lascio le virgolette. Loro credo che siano arrivati alla centrale insieme per lo stesso motivo, se posso teorizzare, visto quanto erano sospetti. Aspetti. Lei vorrebbe difenderli, però tipo... ma la vostra Promezia? E indica loro. Che cazzo ne so? Sappiamo, è un alias, può essere anche solo un alias per quel che ne sappiamo. Ok, descrivetela almeno. Cosa sapete di lei? Io faccio finta di non ricordare. Vediamo se Zanzan mi auta un'altra volta. Lei ti mette una mano sulla spalla e ti dice: potrebbe andare della nostra vita. Anche Ivan ti mette la mano sulla spalla, però in modo molto peggiore. Lei lo fa tipo con i puppy eyes, ok? Ivan no, Doberman eyes. Quindi in questo posto la Zanzan inizia, tipo, c'è è un'altra sfera di un'organizzazione criminale. Secondo voi si espone così facilmente? Io non lo so. Ci interagiamo solo tramite contatti, non è che ci siamo amici, per dire. Siete criminali, ho indovinato. Beh, voglio dire, uno che ha sparato in faccia a un tizio senza neanche chiedergli cose perché, voglio dire, puoi fare... Allora, intanto qua, se c'è da tirare qualcosa, io faccio insieme, quindi criminale faccio, lo so, yes, proprio il gesto, yes, perché ho dedotto giusto. Vabbè. Bravissimo. I potentissimi poteri di deduzione. Wow. Il tizio che ammazza sangue freddo 1. Erindor non se lo ricorda, ma abbiamo già detto di aver visto di persona Promezia, comunque. Questo esatto. È out of character, però se voleva tirare una balla ha mancato. Posso dire una cosa? Perché Dan rivela i segreti di qualunque cosa. È autosparato, però cioè, loro se lo devono pure ricordare, cioè non è che è facile. No, la... ce l'ho sì, però figa, non puoi non ricordarti come è fatta una persona, cioè oggettivamente. Cioè, soffri di Alzheimer. Oppure sta bullshittando. Lei affissa Erindor per capire se sta mentendo. Soffri di Alzheimer, oppure mi faccio i fatti miei io. Esatto, esatto. Non la guardo in faccia la gente. Il primo tiro di un personaggio contro un altro personaggio, rolla Rox. Ovviamente, Naya. Vai, quanto devo rollare? Di 10. Spero che tu faccia 10. No. Poco di Naya, ti uccidessero nel sonno. Non, non serve. Non capisci perché una persona dovrebbe mentirti su questa cosa, per cui sei dell'idea che Erindor sia sincero. Ok. Naya è tipo, va bene, scusami Erindor. Si gira verso Zanzan. Zanzan, tu invece mi sembra che hai detto che l'hai vista. Non riuscire a ricollettarla per davvero, perché è facile, io mi ricordo com'è fatta, dillo, descrivilo, che cazzo. Erindor che gli tira una gomitata così forte che gli incrina la costola. Che si spacca il gomito a Erindor. Che fissa Zanzan così. Aspetta, aspetta. Sto cercando un'immagine per darvi la situazione di Zanzan, ma... No, non mi viene, sta venendo... No, la mia immagine è per vedere Pomezia, appunto Pomezia nuda. Zanzan unisce gli indici tipo e si guarda la punta delle scarpe che non ha, cioè c'ha le scarpe, c'ha solo i piedi. E sì, no, c'è, l'ho vista. Guarda tipo Erindor, non penso di doverlo dire, però. Ma quindi puoi descriverla per favore, Zanzan? Riesci a descriverla, fallo. No, autocard questo. Magari Erindor può aiutarti. Io ho appena finito di fare la mia bullshit. Esatto. No, è così, è il criceto M parola. Mi ricordo che ogni tanto che cambia il colore di capelli. Posso usare help per aiutare Zanzan a ricordarsi? Se fa un roll per ricordarsi, sì. Vai, Ika. Naya ti dice: no, posso provare ad aiutarti a ricordare. Aspetta, però... Rox, placati. Non te lo ricordi davvero o. No, ce l'ho. Allora fai come vuoi, cioè non serve che rolli. Sì, no, ok, no, vabbè, perché Zanzan non se lo ricorderebbe. Ma sì, ma figurati. Lo dice lei. Lo ricorderebbe, sul serio. Ma sì. Raga, vi prego, partoriamo questa cazzo di storia, vi prego. È una donna abbastanza in là con l'età, ma non troppo. Perché comunque vedo che voi non morite a 35 anni come da noi, quindi... E nel mio paese sarebbe una sciamana, qualcuno di... un vecchio. Ha i capelli colorati di solito, sono rossi o nero scuro, dipende dai giorni, ogni tanto la cambia, non so come mai, a essere onesto. E l'ho sempre vestita con la divisa, virgolette, della corona nera, comunque i loro abiti abituali, cappuccio, tutto quanto. E da quello che posso vedere su questi vestiti abbastanza grandi, è sempre sembrata una persona molto ben piantata, non come me, ma comunque prestante. E sì, boh, cioè... È una zoccola comunque. Antipatica come la merda. Cioè... Momento alto. Lo dici? Sì. Slut shaming proprio. No, no, non nel senso letterale. Non fa il mestiere più antico. Okay. Il secondo mestiere più antico del mondo. Però. Non è mai contenta di niente, si lamenta di tutto, non le fa mai bene, queste trova il golem e poi il golem non gliel'hai portato, non ti ha detto un cazzo, quindi boh, cioè... In una parola, è di Milano. È di Milano. Al di là di come può essere o può non essere questa Promezia, è chiaro che le nostre Promezie, vedete che Adone fa un po' strana dire sta frase, sono tutte persone diverse e chiaramente appartenenti a luoghi ed età diverse, quindi quello che ci collega non so se sono propriamente loro o anche sì. Scusa Dona, tu conosci mia moglie, ma non mi hai detto di che la promessa che conosci da. Vedete che qua Dona tentenna un attimino, poi dice Promessia Sefinia era mia madre. Ed è morta? Sì, è morta. Da quanto tempo? Scusate che faccio i conti, da 27 anni. Ok. Sì, è morta quando io ne dovevo compiere 4, quindi... Ecco, il motivo per cui non me ne sto parlando è questo, è morta. Ok. E non ho ricordi di com'era fatta lei di aspetto o di carattere, e comunque non credo sarebbero utili alla conversazione. Ma allora vede che è un attimo calato il silenzio o il freddo, comunque, però dice Diani, ci volessi rollare su matematica per perché cioè, il più imbecille degli imbecilli capisce che in questa stanza c'è qualcosa che non attua. Ma Zanzan fa 1 più 1 e fa 2, ti ripeto. Non serve che tiri, ce la fai, però voglio sapere che conclusione vuoi raggiungere, ecco. Se non altro è anche Annie questa cosa. Sì. Cioè, non è sicuramente la cosa che ci ha condotto qua, non c'entra molto con quello che sta succedendo, ma sicuramente questa cosa non dovrebbe succedere. 10. Ok. Fai un numero altino per una volta. 1! Uno. 9, perfetto. 9, non sai come funzioni da queste parti. A casa tua il nome non viene dato a caso. Il nome ha un significato, che in genere è o il nome di un parente o un segnale, un simbolo, un qualcosa che attribuisce a quel figlio. Ok. Questo dalle mie parti. Sì, non hai idea di come funzioni qua. E se lo chiedo loro. Prego. Dalle mie parti un nome, eh? Scusami, vai. Dalle mie parti i nomi hanno un significato particolare. O comunque un'indicazione di un avvenimento, di una persona, di qualcosa. E visto che qua ci sono, conta sulle dita della mano, un po' troppe promessia, sapete per caso se questo nome significa qualcosa di particolare? Nai, ti chiede, da dov'è che vieni, scusami? Dall'Africa. Territori berber. C'è Devin che tipo, questo è ritardato, però ragazzi me lo confermate, non è possibile che gli ha chiesto da dove viene. No, magari tipo la città, non mi ricordo più se la roba nel mio paese non ci sono le città. No, va bene, non volevo fare la domanda. La prima poi, città la stanno facendo questi invasori del cazzo e poi il 20 tornerò a bruciarla alla fine di questa avventura. Tutto perfetto, scusatemi. Comunque, dove la merda Kaia rispetto alla roba berber Bianic? Se sono lontani. Eddie, stavi per dire. Sì, Adone risponde alla tua domanda, dice mia mamma poco ma sicuro non era originaria dell'impero. Lei tecnicamente veniva dal regno Sefino. Giusto, Bianic, sì, credo. Quelli più acuti di voi però noteranno che il nome Promessia non è manco del regno. Cioè di un altro posto ancora. Non è un nome Akaia? Sì. E Naya lo dice. Adone dice che... Akaia è da dove teoria... viene tuo marito circa. Ah, vero. Circa. E qui che minders vuole l'Akaia? Grecia. Ok. Sì. Ma scusami, no, fermo, non è il regno di Scirocco? Allora, il regno di Scirocco è diviso in due, la penisola italica e tutto quello che c'è ad est, Ah, ok, va bene. Quella zona lì, Impero romano. esattamente, quella zona lì si chiama Acaia in maniera generica, è divisa anche quella in più parti. Ok. Comunque, vedete che Adone è un po', rimane un po' senza parole, dice: mi rendo conto delle stranezze, però io purtroppo mi dispiace, non ho altre informazioni riguardo mia madre. Comunque penso che sia una Mia cosa a zia è una. cui dovremmo fare caso, andando avanti probabilmente. Mia moglie viene da Caia. Boh. Anche la premessa che conosco io viene da Scirocco. Scusami, Naya, tua zia di chi è figlia? Ok, chiaramente tuo padre deve essere È la Petri, ma. sorella di mio padre. Aspetta, what? No, Adone ti guarda e dice: adottata o semplicemente i tuoi genitori hanno deciso di darle quel nome? È sorella di mio padre. Sì, no, scusate, fermi un momento. Sì, quindi ti chiede se è. Ok, sorella di tuo padre, ma di sangue o adottata? Bianici! Allora, mi spacca perché Adone ha fatto un'osservazione corretta e Naya non ci aveva Validissima! mai pensato. E in virtù del fatto che non ci hai mai pensato, non hai una risposta. Noi è tipo. Bene. Cioè, è sempre stata mia zia, non. Sì, non metto in Dovrebbe essere adottata. dubbio. Assomiglia a mio padre. Sì. Lo dice, tipo. Assomiglia a mio padre, cioè sembra sorella di mio padre, quindi. No, per realtà non metto in dubbio il legame familiare, era solo considerando che. Vedi, No, Promezia. Cioè. capisco. Non è un nome comune. Comunque io, cioè, noi veniamo da Lunera e, cioè, la mia famiglia viene da Lunera da un po'. Motivo in più per essere sorpreso dalla scelta di nome curiosa. Il resto della tua famiglia ha nomi normali, se me lo stai per chiedere. Naya. Nel mondo del fottuto gioco, a quanto pare è un nome normale. E poi a questo punto mi giro un attimo verso Gideon e dicevo: tu vieni proprio da Acaia, giusto? No, non venivo da No, su a nord. Sì, tu vieni dal il confine tra la Gulacca e Trice. ok, Ok. allora scusate, sistemo un attimo la domanda. A questo punto Adone dice: invece tua sorella si chiama così perché hanno deciso i tuoi genitori? C'è una motivazione? Non lo so, i miei genitori sono morti quando ero piccolo. E comunque non è un nome così raro, Promezia, dalle mie parti. Ho capito. Adone quasi sente un po' in colpa per aver nominato questa cosa. Però vabbè. Quindi abbiamo Pomezia Petri, Pomezia Talos, Pomezia Sefinio. Sefinir, Sefinia, scusami, grazie. Pomezia Ufarland e la Pomezia della Runa Nera. Manca qualcuna? No, non ne penso. Tecnicamente no, perché con questa ne abbiamo una, Cinque. due, tre, quattro, cinque di Lerindorino Promezia. sono due. Infatti, e quindi siamo tot, cioè ci siamo. Ah! Ce n'è. Per non aver fatto un 2 più 2. No. Ce n'è che. Tecnicamente. È Sì. fissa agli altri. Senza dire Sì, ho quante. capito cosa intendi, Naya, ho compreso e tecnicamente sì. Devin ci mette un attimo e poi dice: è meglio se usciamo? Sto parlando di mia zia in questo momento. No, non è vero, non dice niente. Forse sì. Effettivamente credo che questa conversazione riguardo i nostri familiari. Non per offendervi, ma non credo vi interessi. Hai perfettamente ragione. Non mi ricordo come ti chiami. Porco Dio! Sarò nella mia stanza. Ci risentiamo domani sera per la nostra uscita notturna. Buon discorso. Ciao, Coso. Lo chiama Coso. E Kiel, ma tu esce perché ha capito l'andazzo. E Kiel è indecisa. Cioè, picchietta sulla sua gamba e dice: in realtà io ero curiosa di vedere di cosa parlavate. Famiglia a questo punto, direi, per lo più. Forse vale la pena che tu rimanga qua nella stanza, Kiel. E a questo punto guarda un attimo Naya e dice che forse vale la pena parlare di quello che hai visto anche tu. Vediamo se... No, Naya fa così. Posso... Porco di Eva, vabbè, ormai. No, vabbè, Naya, ti sussurra tipo: meglio dopo. Dicevo del mio occhio. Ah. Oh, giusto. Kiel, posso chiederti un favore? Dimmi. Hai in mente che hai detto che... Oddio, non ho parole migliori, quindi userò la stessa frase che hai detto tu. Che ho un odore particolare. L'occhio di Adone. Perché c'è la musica da pagliacci? Un pagliaccio. Pagliaccio. Adone? Posso chiederti se percepisci qualcosa di simile da Adone? Dici per Adone, guarda. E Naya ti trascina Adone da Kiel. Vabbè, discorso. Dici per l'occhio? Lei alza la mano come per toccarti, poi la ritira e dice: forse anche di questo è meglio parlare domani sera. D'accordo, grazie, Kiel. Cioè, non lo dice tanto per fotterla, cioè lo dice genuinamente. No, Rox. Vabbè. E niente, cioè ci giriamo verso tutti quanti e... Quindi qualcosa comunque in comune fra tutti noi c'è. Anche mia mamma si chiamava Promezia. Dice che Yell, unprompted. No, Adone a questo punto si mette un po' a ridere e dice: no, scusatemi, queste sono decisamente troppe coincidenze. Però io vengo da Kaias. Cioè, vengo... da una famiglia metà dell'impero meridionale e metà di Akaias, quindi non è un nome strano dalle mie parti. Non sono... Il nome, dico. Come? Sai il significato del nome? Promette... chi pensa prima? Colei che pensa prima? Di agire, credo. Sì, non è proprio mia madre. Scusate un secondo, ma Zanzan ha detto cosa significa dalle sue parti Promezia? Non lo sono perso? Sì, Promezia non esiste. Tendeva a dire che dalle sue parti tutti i nomi hanno un significato. Ah. Cioè non dai i nomi a cazzo. Sì. Zanzan, tu hai detto che con la tua Promezia ti riferivi a quella della corona, giusto? Yes. Ah sì, giusto, c'hai ragione, my bad. L'ho fatto un attimo di confusione. Adone dice: a questo punto non so se vale la pena provare a unire i puntini, nel senso... Ok, cosa fanno le vostre pomezie? Ammazzano la gente. E Naya, tipo, prende un quaderno, anzi la lavagnetta bianca, e scrive: ammazzano la gente. Grande dottor House. Dio porco! Beh, l'indirizzo è quello. Ecco. Ivan? È una maestra da... Una maestra. Di cosa? Insegna ai bambini. E comunque... a casa fa delle magie, come le chiama lei. Che senso? Boh, fa i suoi intrugli. Fa crescere piante continuamente in pochissimo tempo. Ah, okay, nel giro di minuti. Fitomagia. Fitomagia. Non, no, Ivan col cazzo che sa questa parola. Io non senza lo offesa. So cosa sia. Adone credo che lo dica. Tanti funghi, tantissimi funghi. E credo è tratta di fitomagia. Se dici funghi è micomagia, che non è proprio la stessa cosa, ma è simile. Il motivo per cui io ho appunto incontrato Ivan è perché al congresso che c'è stato un po' di anni fa era invitata appunto Thea, o meglio Promezzi. E come quindi... si fa a chiamare Thea? Prometea. Ah, ok. È troppo lungo come nome. Ma vieni, posso farti una domanda, scusami. Dimmi. Ma se era presentata... Io la chiamo sempre zia. Ti dicevi, Eddie? Ma si è presentata come Prometea e io non ho capito un cazzo? Si è presentata come Thea. Ah, ok. Thea Talos. Ah, vabbè, allora non sono stronzo io. E tu non hai detto nulla perché io ho la sua iniziale tatuata sul collo, ma... La T. Non è tipo... La T, non è la P. Perché lei si fa chiamare quella T. Madonna, allora... Quando l'hanno presentata alla convention ha detto Madame Talos. Infatti. No, scusa, no, è che per assicurarmi che io e Eddie non sia pazzo, scusate. Sì. Voglio qualche certezza. Ok, quindi Ivan, no, scusami, non Ivan. Zanzan e Rindo, vi ricordate che tipo di magia usasse la pomezza che avete incontrato voi? Non l'ho mai visto usare magia. Mostly gonfia di botte la gente a mani nude. E non solo. Probabilmente non mia moglie. Chi ti ricorda, Rox? Naya sta avendo tipo il flashback del Vietnam. Tipo... Ma... Ti ricorda qualcuno? Ah, no. La zia usa le magie potenti, non usa le magie. Sì, esatto. Le magie potenti dei pugni nelle mani. Esatto. Quindi non avete mai percepito magie venire da questa pomezia? Se conosce magie, non che io abbia visto, comunque. Potrebbe averle fatte, potrebbe saperle fare. Non l'ho mai vista farle. Ok. La mia, invece, è una necromante... E Naya si gira verso Ghigione, tipo la tua Ontica. Sono tutte diverse. E Naya si gira verso Kiel. Tua madre, invece? Morta. E fino lì. È una sì, magia vabbè, raga, però una certa, basta, cazzo. Spiritualmente, Adone batte il 5 a Kiel. Non lo farà mai, non è quello in questa situazione, però. Stregoneria, cose del genere. Ok. credo fosse anche lei una criminale, non credo in qualche circuito così avanzato come la corona, ma boh, piccola criminalità. Voi avete contatti con la corona nera, intendo al di là di Erindor e Zanzan? Che Yel fa di no con la testa. Vabbè. Adone si sente un po' stupido per chiedere, ma voi per caso avete contatti con la mafia? Dio che... Però... Tu che sei italiano! Tu che sei italiano! Esatto, sei... Ci sono un nero, un italiano! Oh, fino a prova contraria! Allora, Naya è di Roma, quindi tecnicamente non è Napoli. Vero? Però, vabbè, lasciamo al fatto che sì, c'è la peggiore mafia d'Italia, quella di Roma, vabbè, uguale, non è un problema. È andata questa cosa. Gideon? So vagamente chi siano, non ho idea di cosa facciano. Quelli della corona nera, intendi? Beh, sì, è un nome che ho imparato tipo stasera o ieri sera o quando è la prima volta che li avete nominati. Sono quelli che quando vuoi dei soldi ma la gente non te li vuole dare, vai da loro e ti propongono dei contratti e ti danno dei soldi. Sì, l'avevo dedotto dai context clues. Che gli altri fanno notare che questa è la definizione di ogni lavoro ever. Tra l'altro. L'unico lavoro che non ha mai fatto. Sì, sì, sì. Ma la corona nera, cioè non out of character, agisce soltanto a Oclica? No, o... è internazionale e realisticamente più vecchia dell'impero. Cioè, esiste da 400-500 anni. Molto John Wick vibes. E realisticamente, cioè... Ivan ci sta che non abbia contatti, ma è impossibile che non ci arrivi in due o tre passaggi. Cioè, un suo amico conosce qualcuno che conosce qualcuno della corona. Mm-hmm. Perché nei ghetti hanno una presenza importante. Ok, quindi c'è non ho amici subito che... Esatto. Però, cioè... Qualcuno che c'è in brutti giri, ci arrivi. Qualche spacciatore di qualche tuo amico, qualche cosa del genere. Ok. Mamma mia, l'amico spaccino. Mamma mia. Ok. Volete dire altro? Scusa, dovrei andare a dormire. La sorella di Gideon, che tipo di magia faceva? Allora... Ontica, ha detto, ok. Sì. Cos'è Ontica, scusate? È la magia del creare cose con la mente. È il tipo di magia che devi studiare di più. Posso dargli la definizione. Vai. Proprio da dizionario in modo molto smug? Vai. Ok, però... te la cerco. No, no, fai conto che gliel'abbia detta in modo molto smug. Okay, ma non vale! Quindi hai capito metà delle parole che ha detto, tra l'altro. Io so se la sorella di Thea è sorella è adottiva o se qualcuno ha adottato nella famiglia. No? Cos'è quella faccia? Puoi ripetere? No, sto multitaskando. Ah, scusa. So se tipo la sorella di Thea, so qualcosa di lei. Sai come si chiama? E che è più piccola. Si chiama Epimetea. Sì, i genitori erano quel genere di persone. Che cazzo che c'erano queste. Scusa. Prometea, Epimetea. Quindi ha un significato questa cosa? Sì. Un significato, un nome, che significato ha? Non so se te l'ha mai detto, ma diciamo di sì perché ti voglio bene. E Prometea Grazie. È quella che pensa prima di agire. Epimetea è quella che pensa dopo aver agito. Wow. Proprio sorella maggiore, sorella minore vibe. Sì, e da quel poco che ti deve aver detto di sua sorella, nomen omen. Nel senso che, sì, sua sorella è una deficiente. Affectionate. Mm-hmm. Naya fa... quindi sono già a quota 3 promezze con fratelli. La tua, Gideon e la mia. Vabbè, adesso non è che stiamo a cercare tutte le cose. Scusami, sto soltanto dicendo quello. Di qualcosa tu eri in dove? No. No. No. No. No. I don't think I will. Sono qua per remare contro al party, cosa hai capito? Io nel dubbio ucciderei Erindo, visto che non c'è la spia. Non so neanche se c'è una spia, ma se proprio dobbiamo votare. Erindo was not the impostor. Aspetta, tanto Naya ha assaggiato il sangue. Cristo. No, no. Scusatemi, questo non è mai successo. Allora. Facciamo 5 minuti di pausa. Mi prendo da bere e ritorniamo. Dai, con delle nuove idee. Vai. Dai, vi prego. A fra poco. Dobbiamo cavare qualcosa da questa cosa. Va bene. No, raga, Bianice, io ti giuro, se un altro, cioè, allora, sicuramente c'è qualcosa che lo collega, ma se un'altra cosa che collega le promesse è la quarta di seno, mi incazzo. Era solo qua, mi strozzo. Pensavo fosse di più. Porco Dio. Lo era nel mio caso, almeno. Bianice, Adone è stato allattato da promesse? Ma che domanda di me. Sono d'accordo con questa affermazione. E... sono no. Tanto così da dirti che Adone è stato pregnancy machine generated. No, ma vi prego, ti giuro tutto tranne quello. Lei a chiede così, qual è la vostra opinione sulla pregnancy machine, by the way, KL? No, ti giuro, okay, tutto tranne quello, Bianice, che dovevo mettere a piangere. No, no, ti ha allattato al seno. No, non suo. Non suo, però. Non suo. Scusate, però mi viene da fare quando siamo in situazione vecchi, cioè mondo vecchio. Non è una domanda che mi sono fatta manco su mia madre finora. Letteralmente ma mai posta il problema. Ho capito, ma sai come funzionavano le palie in antichità? Quando mi ha cresciuto mia madre, sì. Sì. Sei culturally insensitive. Ma vai, lasciare. Ah. Vabbè. Che bella questa pausa ci voleva. Sì, vero, minchia, sì, stavate esplodendo prima, momenti. Eccola, è arrivata lei. Un mosso del lago, com'è? Oh mio Dio, cosa ci fai qua? Mi hai visto, ho incontrato Gideon, porco Dio, il mondo è piccolo. Il mondo è veramente piccolo. Il mondo è un buco di culo, Dio cane. È veramente un buco di culo. Bello come ti abbia incolpato per il mostro del lago. Sarebbe il primo. Divertente, sì, non ti giuro, riso molto da quello scambio. Beh, che dire, aspettiamo che tornino tutti. Oh, follettine, follettine. Promezie e promete. Beh, non sei contento, Bianice, abbiamo avuto una discussione che volevi dalla prima sessione. Non sei soddisfatto? Sì, l'avete avuta per il motivo sbagliato. Cioè, oddio, vero? Nel senso che doveva sparcare questa conversazione dal fatto che c'era una voce nell'ombra che urla: Promezia, mi hai rubato il cuore, ora ti ammazzo. Però don't you worry, infatti si ricordava di sta cosa, scusa. Lo so. No, io me la ricordavo bene, però è che siamo tutti della testa di cazzo, cioè tipo Adone era tipo: ma no, non sta parlando di mia madre morta 30 anni fa. Quindi se Ivan vuoi commentare sta cosa ora che ti è venuta, puoi, eh. Ma solo adesso. E vabbè, ci sta. Ognuno ha i suoi tempi, non è che siamo tutti computer quantistici. Siamo tutti qua a scavare. Okay, commenta sta cosa. Cioè, aspetta, ricordami quando è successo sta cosa. Il 27 settembre alla centrale, quando siete entrati nel nucleo. Quando siamo entrati nel nucleo e l'abbiamo visto... Creepy. Avete visto la persona appesa e c'era una voce che urlava la frase che ha sbobinato Rox. Non Naya. No, Naya! Sì. Naya è venuto al mondo reale a sbobinare. Io. Vabbè, Naya l'ha capito. Intelligente. Quindi. Ragazzo. Prima. Vi dirò. Siamo tutti quanti... Giusto per sapere, possiamo ricominciare? Sì. Cioè, se c'è Brian, ci siamo tutti. Che è l'unico che non ha più parlato. Non ho più sentito il tuo line. Vieni in casa con te, Jin. Esatto, cioè... Sarà cagando, cosa devo dirti. Vabbè. Comunque, la cosa che dice la voce, dato che... tutti quanti ce lo ricordiamo... Aspettiamo un attimo, che poi adesso torna, dai. Al limite lo ripete. Ok. Diventa allora. Diverso ogni volta. No, l'ho scritto bene, abbastanza bene. Con l'audio non lo riascolto più, basta. Ok. Sono sicura che qualche pezzo è sbagliato, però... cioè, mi manca un qualcosina, ma non me ne frega proprio più un cazzo. Naya, unreliable narrator number one. Quando abbiamo sentito quello... quella voce... Mai tornato, Brian. Ok, no. Ci sono. Ciao, okay. Naya stava per riraccontarvi cosa avete sentito dire alla voce. No, Naya non lo sta riraccontando, lo sto raccontando io, Rox, ti vedo, non mi fare queste cose. Ma culo, faccia di merda. Una volta va bene, ma due no. Damn boy. Può giocare tu così, col mal di testa perenne ogni volta che apri la bocca. Vai. Allora. La voce diceva: Promezia, ti sei presa il mio cuore, così succede a chi tradisce. Promezia, non mi fermerò finché non avrò sterminato ogni traccia della vostra razza inferiore in questo viscido mondo di voi parassiti. Hope this helps. Manca un pezzettino iniziale, però vabbè, in conclusione era quello. Ma questo cos'era, quello che ti ha detto il mostro del lago? No, questo è quello che abbiamo sentito noi tutti quanti assieme. Ma lo sta dicendo Off-Meta, okay. Sto dicendo Rox, non è Naya che mi dice. Sì, lo so. Okay. Bene, potete... aspetta, okay. Rimetto la musica a sto punto, perché a noi piace un sacco la musica. Ci piace la musica. Magari evito di mettere la musica sbagliata, perché sarebbe... Aspetta. vado a prendere una cosa, io torno su. Il tempo di mettere la musica e torni. Oh, è ritornata Maria. Grande Maria, ti seguo dal flashback. Dov'è Maria? Niente, sta qua la musica di Maria. Ah, ok, va bene. È la sua soundtrack. Riesco a playare nella testa il video musicale di questa canzone. Ho fatto questo. Bella. Vai. Vai, Evan, Ivan, lui. Sì, whatever is my name. Quando abbiamo sentito quella voce dire Promezia, non so se è successo anche a voi, però ho sentito proprio i brividi sulla schiena quando ho sentito il nome di mia moglie. Io ricordo solo una cosa, posso ricordare una cosa, Eddie? Cioè, può Eddie ricordare una cosa? Cioè, abbiamo KL in stanza. Me ne vado. Che no. Yell esce. Ma no. Era quella la ripresa che facevo prima sul parlare di Anic. Ok, Al va nella sua stanza dove è lì insieme a Devin. Niente. Bene, bene. Vabbè, comunque... possiamo parlare. Censurati, allora, cosa stanno facendo? Raga, in quel nucleo di merda dove tritano la coca. No, vabbè. E Zanzan, questa è un'affermazione vera. Domanda. So che... Zanzan ha un contratto. Mia moglie non farebbe... Aspetta. Ah! Però non so se se ne rende conto. Zanzan ha detto che... Io mi ricordo che Zanzan l'ha menzionato che aveva effetto solo all'interno della centrale. You guys wanna take a chance? Esatto. Zan, get the fuck out! Perché? Volevo sentire anch'io! Zan, io vorrei che tu restassi, però... E ti fissa con uno sguardo, così. Ok, ok. In alternativa potete rimandare questa conversazione al giorno dopo. Anche. No. Potremmo... sì, però i contratti saranno scesi. Domani, no? Esatto. Ma fuori IVA non è un contratto strano. Vabbè, ma vuole. Comunque... Vabbè, Zanzan resta pure, tanto... Sì, Zanzan forse però... Di restare, sto ne vale... Naya ti prende fuori il braccio. No, dai, non parliamo di niente, No, alzo Naya, no, me ne vado con Naya. No! Forse ne varrebbe la pena parlarne domani sera, dopo che Yel può anche aiutarmi con una cosa. Potrei sapervi dire di più sulla mia di Promezia. Ma invece per quanto riguarda i discorsi di Batu di ieri... Sì? Qual è la vostra opinione a riguardo? Ok, Zanzan è rimasto. Ho deciso io per lui. Grazie. No, volevo andarmene davvero. Ok, va bene, basta. Puoi scopare, Ren sta morendo, non puoi comunque scopare. Poi c'è Carmi, quindi... Bah! I cigolini non vengono dal letto. Vabbè. Oh no. Scusatemi. Mi raccomando, oliela bene. Anche se... non la posso rompere, tra l'altro. Al massimo si piega. Bravo, bene, dopo aver detto queste bestialità, Naya chiede appunto qual è la vostra opinione riguardo alle cose che ha detto ieri sera Batu. Credo ci sia un collegamento con qualsiasi cosa stiano facendo nella centrale. Non che siano collegati direttamente, però. Ripeto, non sono fan delle casualità. Adone, doesn't do casual. Commitment. Infatti, o niente. Sì, ha trovato un tipo e se l'ha sposato, punto. Si gira verso gli altri stronzi magically inclined che hanno assistito a tutto il discorso e dibattito sul fatto che gli spiriti e la magia e tutte quelle cose lì che vi ricordate. E l'importanza dei nomi, bla bla bla. Vivo con un branco di figli di puttana. Lo dice lei ad alta voce. Promette. Ma raga, ma scusami. Cosa ne pensiamo di cosa? Cioè, non è che ci hai dato uno spunto particolare di conversazione. Hai proprio detto... Quello che ha detto Batu. Discuss, è tipo, che cazzo vuoi? Esatto, è preciso. Ok, raga, però, allora, vi voglio bene, però così la rendiamo impossibile andare avanti, cioè non posso stare qua a darvi tutti gli hook esatti per parlare, vi prego, datemi una, venitemi un po'. Io non mi ricordo di quello che ha detto, non so voi. Appena finito di dire, scusa. Ha detto spiriti, nomi e staff e centrale, cioè che cosa di preciso mi stai chiedendo la mia opinione? A parte che io l'ho già data la mia opinione. Ovvero che non gli credi a spada tratta e lo pensi un pazzo? Cioè, di Batu? Sì. No, che cioè ha fondamentalmente ragione nel dire che le divinità hanno diversi nomi, è quello che aveva detto. Non mi ricordo il phrasing. L'esatto contrario, lui. L'esatto contrario. Naya ti dice, guarda che lui ha detto che hanno dei nomi specifici e la tribù nemica ha altri cinque spiriti con altri nomi che non conoscono e che il loro scopo è non divulgare i nomi a proprio apposito. Sono io che gli ho chiesto allora, se sì, fosse che... possibile che ci... un'entità che ci avesse più nomi. E ha reagito in un modo un po'... Sì, che alla fine molte divinità sono archetipi, diciamo, di cose che fanno e... diverse culture, diverse cose hanno nomi diversi per fondamentalmente la stessa cosa a livello basic. Infatti Baku avevamo la solita divinità molto simile se non altro, il solito nome per la solita cosa, per la solita divinità. Sì, ma noi stiamo parlando pure a livello teorico di divinità, giusto? Cioè, in che senso? Non esistono le divinità. C'è una centrale che dice il contrario, però vabbè. A parte io ci ho parlato con la mia, quindi... C'è una cosa, scusa, c'è una centrale che dice il contrario, però va bene. Scusate, Zanzan, in che senso hai parlato con la tua divinità? Intendi con lo spirito della tua tribù? No, con la divinità. Voi non ci parlate? Con quale divinità dovresti aver parlato? Non esistono. Vedo Bianic che sta muovendo dalla camera. Io sto trattenendomi. Sì, esatto. Dai, no, ti fissere tipo, ma le divinità non esistono. Ancora con questa convinzione. Rindo, tu sei un uomo di scienza, tu mi stai dicendo che hai sempre creduto letteralmente divinità. Stanno letteralmente spremendo un dio nel corpo di un essere vivente, di un essere di fatto di carne. Come te lo dobbiamo, come deve essere più concreto di così? Scusami. No, allora, ma questi non penso che questi tu hai avuto invasori sappiano, cioè... che cosa utilizzano. Erindor mica è tipo un uomo di città. Ma cosa c'entra? Abbiamo visto tutti alla centrale un corpo con dentro una divinità spremuto per fare mana. Scusami. Cioè, poteva essere anche solo un avatar. Un avatar di cosa? E lei è qua che tipo... Oh. Sudden realization. Allora, seguiamo il filo logico. Ci sono tribù che riescono a ottenere boon, poteri e altre cose dalla preghiera a determinate divinità. Ma voi, noi ora, come tu semanticamente vuoi definire che cos'è una divinità, il fatto che tu puoi pregare a qualcosa e quella cosa ti dà qualcosa in cambio, non è una divinità? Non mi dà niente, cioè io non faccio... C'è un... Anticamente l'unico modo per utilizzare la magia era pregare una divinità, e solo adesso adesso correggimi, Vianni, 200 anni che ci sono le 180. Okay. E diciamo da molto molto poco tempo che esistono le centrali e che la magia è diventata accessibile a tutti. Io starei pregando quando faccio le... No, è un diverso utilizzo, nel senso... Quindi da dove viene la magia che uso io? Esatto, that's the point, da dove viene la magia? Mm-hmm. Ed è quello che... Tu mi stai dicendo che esistono le divinità e gli spiriti, ma che la magia che uso io non viene da lì? Viene da lì, poi sì, parla no. Perché io sono un alchimista, quindi... Sì e no. Allora, l'alchimista è... l'alchimia è per lì una magia. Non la considero nemmeno. Il fatto è... Se abbiamo magie, che alla fine la distinzione ontologica delle magie non è una cosa... oggettiva che esiste, è un costrutto, l'abbiamo inventato noi come dividere le magie, quali sono i limiti di un tipo di magia rispetto a un altro. noi abbiamo dato i nomi agli incantesimi, eccetera, eccetera. No, non sono oggettivamente così. E... nello stesso modo in cui abbiamo magie che possono manifestare cose nella realtà, cambiare il tempo, yada yada, cosa ci impedisce, o almeno anticamente, di usare quella stessa energia magica e canalizzare quella stessa energia magica per manifestare delle divinità verso cui pregare? Ogni cultura... cosa intendi, Bianni? Niente, che è la quarta volta che stai facendo così a Ica. Ma non ti preoccupare, non è... no, no, sembrava, sorry, la scena di Shrek. Non ho sentito... è presente che si toglie il cappello, il tizio resuscita e... vabbè, niente, Shrek quarto, cos'era? Vabbè, scusami. Sì, una cosa del genere. No, niente, se volevi dire qualcosa, dillo. Sorry, non ho sentito, se mi sto mentendo. No, no, no, no, finisci poi quello che volevi. Era solo divertente che è successo una volta. Vai avanti, finisci. Sorry. No, no, ho perso il filo. Ah, manifestare delle divinità, soprattutto se hai culture diverse, tribù diverse, che cercano di manifestare la stessa identica cosa, anche se sotto nomi diversi, tutta quell'energia canalizzata deve andare da qualche parte, e poi può diventare un circolo vizioso. Le entità che hanno manifestato possono avere influenza e potere sul mondo a una certa, indipendentemente dall'umanità che le ha create. Allora, capisco quello che dici e capisco il senso di quello che dici, però le magie che venivano usate nella storia non hanno senso di esistere, cioè non sono fisicamente fattibili al giorno d'oggi. Zan Zan alza una mano. Ok. Cioè, Adone alza una mano. E... cambia la musica, ti prego, cambia la musica. Secondo me è adatta, però come vuoi. Vai Zan Zan. Actually! E, no, una dimostrazione maybe it's in order a questo punto. Illuminami. Quale vuoi fare? No, in realtà voleva essere una roba generica, non voleva essere un... mi rollo di 10. Ti rollo di 10. Se vuoi lasciarmi la descrizione... hai carta bianca. Ok, Zan Zan si toglie tutto quello che c'ha addosso, praticamente, cioè tutti i manapelli, tutto quello che può essere considerato un aiuto alla magia, e lo poggia tipo lontano da un lato, chiude gli occhi, si inginocchia e prega, capite che è una preghiera, e quanto vi posso spingere? Hai detto carta bianca, ma... dipende, ti ricordi qualcosa di quello che ti ho detto su una divinità tua scelta o no? Sì. Vai, allora finché resti nel suo dominio puoi fare quello che vuoi. No, non me lo sto ricordando adesso qual è in realtà, no, ho mentito. Bene così. Mi stavo dicendo, no. Sarebbe bellissimo se rimanesse lì a pregare, non succede nulla. Dico, va bene. No, Tom Master me l'ha fatto, sto orribile. No. Comincio a pregare e fa: non mi ricordo il numero di telefono. Un attimo. Forse dai, hai ragione, non esiste. Mi pescherò dalla chat che ce l'ho, so che è qua. Però. Dimmi il dominio della divinità, se non... o il nome, una delle due cose. Mi pare fosse il sole. Perfetto. È notte, perché state cenando ed è inverno, quindi... cioè, è dopo cena ed è inverno, e tu preghi Gaga, la divinità del sole. Allora me la ricordavo bene, vabbè, poi visto. Uguale. Sì. E vi ricordate che durante gli eventi della cattedrale Batu ha usato una magia strana per amplificare le sue capacità corporee, e sta cosa non è servita un cazzo? Sì. È molto simile a quella cosa lì, agli occhi di voi profani. E effettivamente sta congiurando una magia... e diventa giorno. What? Fuori dalla finestra è giorno. Adone si alza, ma temporaneamente o... è giorno. Cioè, nel senso, come distingui il giorno dalla notte? No, ma dico, è qualcosa di che è flash, tipo per un po' di tempo. No, no, no, anche è giorno. Cioè, e basta. Cosa sta continuando a pregare, Ah, ok, io faccio il tanto. Lo pensavo la stessa cosa. Pensavo la stessa cosa. Comodo 3000. Scusate. Naya è sbalordito. Brian, tipo... cioè, Brian, Ivan dice: è una magia. È una magia. È una magia. Voi sapete fare magia così? No, guarda, sono qua seduto perché mi piace che penso. Non tu, intendevo gli altri! Bianic, scusami, giusto io da studioso di magia naturale, così. This is some mutter bullshit. Questo è proprio, hai aperto Star Trek, lo stai vivendo. E Adone dice, Zanzan, smettila, cioè fermati. Mi alzo in no, piedi. Non fermarti. Non mi smetti, cioè, no, me lo fermarti. Notte. Non stop. A bocca aperta, senza parole, si gira lentamente a guardare Zanzan. Ah, io pensavo che tutti potessero in questo posto. Siete proprio strani, no? Voi vostri ninnoli del cazzo, indica i manapenni. Ancora il manapenni! Hai appena fatto diventare giorno! No, io non ho fatto un cazzo di niente, ho chiesto al mio dio se mi dava una prova della sua esistenza e è diventato giorno. Anaya tremano le mani e dice, e sussurra: quindi Dio esiste? Ancora? Non si risiede e congiunge le mani. I have to teach you this. Bianic, dimmi. Posso sapere che tipo Prometea, cioè quando fa le sue cose? E... usa i manapenni o no? Allora, no, lei è in grado di fare della magia senza i manapenni. Ah? Diciamo che forse una volta l'hai vista usare un manapenni per fare la magia, ma in generale lei lo fa senza. E... ah, glielo dico? Boh? Come vuoi, cioè io ti dico, forse una volta l'hai vista usare i manapenni, in generale fa la magia senza i manapenni, nel modo in cui lo fa Adone, diciamo. Quindi, cose piccole. Far crescere le piante, capito? Quel genere di robe è un tipo di magia, okay, che esiste. Far diventare giorno non è nelle spell di Pentagon Spread. Diciamo che è quella la linea di demarcazione tra cosa è fattibile e cosa no. Ok. Ma tipo... lei quando fa le sue cose non è che si mette a invocare un dio, penso. Ardoshi. Da dove... beh, ma quello tutti, scusami. Cioè, per le cose piccoli, per le piccole cose non serve. Cosa stiamo usando per fare le centrali? Ancora! Mi pare di capire... che sta spendendo un dio, non siamo... Secondo la nostra teoria, che mi sembra assolutamente rivendicata dopo aver visto quello che c'è in una centrale, le centrali stanno rubando condensazione di magia dall'etere che è stato creato nel corso dei millenni dall'umanità. Che queste condensazioni sarebbero poi le divinità, i diversi aspetti delle divinità, e quello che stanno facendo le centrali è succhiare potere a questo etere. Le conseguenze? Who knows? Secondo noi è male e non si dovrebbe più fare idealmente. Non le vorremmo scoprire le conseguenze. Il puno da in alto e indica il sole, it's kinda angry about it. Is it? Is it not? Voglio dire, c'è gente con gli ingranaggi al piano di sopra, quindi immagino che non sia proprio una bella cosa. Wow. A me sembra che Naya abbia bisogno di dormirci su, però se vuoi parlare molto ancora, dimmelo. Vuoi ancora chiedere cosa sta succedendo alle centrali? Erindor, mi spieghi adesso il tuo percorso spirituale, perché mi sembra che hai accettato questa cosa troppo in fretta. Posso dire, sono d'accordo con Naya, con Rox, insomma, con chi sta parlando. Ma dove cazzo ti esce questa cosa, Rick? È come se adesso a te, tu, Rick, mi dicessi Dio esiste perché l'ho visto. È vero. cioè, se io ho visto con i miei occhi, scusami, cioè, se tu vedi Dio, ma l'hai accettato così, tu domani vedi Dio e senti, scusa, vedo Dio, allarga, scusami, vedo Dio, no, mi sta fermando quel vino e... non puoi aspettarti che la gente sia, oh beh, ovvio che Dio esiste, l'ho visto, no, non cazzo. Ovvio, non ovvio, però insomma, se mi appare Dio, mi fa una cosa da Dio, penso che, insomma... Vabbè. Così! Insomma... Viene stesso Candid Cave in 30 secondi, mi stai dicendo questo. Scusami. Io mi sto divertendo un sacco. Ma scusa, in tutto questo, Adone... Per te questo è normale? Cioè, nel senso, sono l'unico stronzo che pensava che Dio non esistesse, state... Cioè, no, c'è no. Una telecamera qui da qualche parte che mi stai dicendo. Non è che non pensavo che... Ah, scusa, vai adesso. Adone lo vedi scosso, comunque, dice, non interpretare il mio silenzio come semplice indifferenza. Sto cercando di accettare questa cosa e comprenderla. Cioè, comunque lo vedi vagamente scosso. Vedi che sta per dire qualcosa, poi si zittisce. Però scusatemi. Cosa no. Io vorrei solo fare un'osservazione. Se abbiamo appurato che Dio esiste, io sto ripensando a quello che ha provato a fare Ludolf. A quello che è successo. No, no, quello, il motivo per cui Ludolf è stato arrestato. Ludolf ha provato a creare o incanalare una divinità, ma non è successo. Ma se abbiamo appurato che Dio esiste... Magari io ho il Dio sbagliato. O magari non serve un corpo adatto. In fondo non è che potevano prendere chiunque da mettere nella centrale. Per un altro, se un altro poi ricordo che comunque alla centrale ci hanno chiesto un corpo specifico, o comunque... No, alla centrale bastava un corpo. Almeno così mi è parso di capire. Questo non ha ammazzato nessuno. Vedete, Adone non troppo convinto dalle vostre affermazioni, però per il momento non dice nient'altro. Ma quindi scusate, mi state dicendo che voi da queste parti, nella più grande università di Yada Yada, non studiate mai nessun componente umanistico della magia, cioè non vi fermate mai a chiedervi il perché invece del come? Questa è una stoccata, perché in effetti la cazzo di università di Snaia non la fa quella parte lì. Si skippa la parte teorica. Sì. Questa è una stoccata. Mentre Adone no, cioè loro sono un po' più, un filo più broad. Sì, forse Adone... Si è bloccata o ci sta odiando? Cioè, credo che Adone forse abbia vagamente studiato questa cosa, però... Sembra molto... No, è bloccata, è bloccata. Sì, infatti. Ho troppa paura, aiuto. Sì, io non la vedo, non lo faccio lo screen. Sì, in effetti il pezzotto è cattivissimo. Fate uno screen, infatti. No, quando ho fatto Feng... No, è che... No, beh, aspettiamo un attimino allora. Che palle quando faccio la frecciatina. Facevi davvero paura, Rox. Esatto, la mandata in cortocircuito. Allora, colgo l'occasione finché non c'è Rox per darvi informazioni tecniche. Ed è che... ok, mi ha bestemmiato in chat, quindi vuol dire che si deve essere ripresa. E no, le informazioni tecniche sono che io vorrei finire la sessione con la giornata... Dopo non credo che riusciamo a fare tutto. Aspetta, che okay, Rox mi sta scrivendo. E pauso il bot un secondo, che tanto non c'è Rob. Niente, volevo chiedervi cosa volete fare nel giorno successivo, considerando che la sera fate l'uscita notturna. Quindi se prendete fatica o danni durante il giorno facendo le attività, vi rimangono durante l'avventura. Quindi potete anche riposarvi se volete. Sì, io mi riposo barra medito, non so cosa fanno gli stregoni per Sì, raccoglimento sì, sì. ascetico. Ci Ok. sta. Comunque sia, all'inizio del giorno successivo vi farò rollare la vita. Io ve la farei rollare ora. Tanto abbiamo un Sì, meglio. minuto. Ok, Quanto andiamo in ordine, così almeno non mi incasino. Andiamo in ordine su quelli che ho sulle schede. Il primo è Eddie. Sì. Mi rolli un D6 e due D4. Mi fai la somma 10? Ok, di base avrai 10 punti vita. È tanto poco? Non è tantissimo, ma non sei un tank, quindi è normale. Poi, Ok. Gideon, hai 3 di 6, easy. Scusa, Piani, posso farti una domanda Vai, dimmi. stupida? Hai già. Cioè, noi abbiamo parlato un po' del fatto dei sonniferi. Sì? Di gameplay dici che c'hai vantaggio? Non la voglio forzare sta cosa, però, No, ha cioè, nel senso. senso. Quanti ti faccio rollare un dado fortunato solo, quindi tira un altro di 4 e prendiamo il più alto. Ok. Ha senso. Ok, niente, era destino. Niente. Va benissimo. Poi Roxette dovrebbe essere tornata, ma intanto facciamo ste cose. Ho Jin slash Ivan, hai un di 6 e 2 di 8. Non mi ha preso il comando. Aspetta, un di 6? Un di 6 e poi 2 di 8. Unlucky. Unlucky brutto. Aspetta. Dove cazzo sei? Più 3, più 2, più 1, più 6. Ok. Durante le due attività potete riposarvi per ritirare un dado. Quindi per migliorare questi roll. Andando avanti con questa cosa, c'ho Rick e Erinda. Ecco Hai un di 6 e 2 di 4. dai. Ok. Tu invece hai avuto culo. Di fisico hai più 0, quindi hai 10 su 10. Poi ho Rox che non c'è, quindi andiamo a Ika. Tu hai 2 di 6 e 1 di 10. Due di 6 e 10. 5 più 7 è 12. Hai 4 più 3 è 7, più 2 è 9, più 1 è 10, quindi hai 22. Poi ho solo Rox e abbiamo finito. Passo e giù. E sì, vedo. Anzi, dai, già che ci siamo qua facciamo tutta sta roba qua. Sempre in ordine, partendo da Eddie. Cosa preferisci fare nelle due attività? Io credo che Adone si riposerebbe, forse la mattina. No, Fare anche credo uno che e si uno, eh. riposi. Lo so, è che sto pensando su cosa potrebbe. Si può tipo allenare in preparazione o meglio che si riposa? Tutte e due, cioè puoi fare anche uno e uno, perché hai due attività prima dell'uscita. Ok, allora magari facciamo che la mattina si allena un po' con le sue abilità magiche. Ok, quindi magia naturale. Sì. È un di 20. Dai, Adone. Dai. Allora, vediamo un attimo E cosa mi risponde. finocchio. L'hai detto tu. Ottieni 2 punti maestria, senza Ok. lode, senza infamia. E Va bene. per l'altro ti riposi, quindi ti faccio ritirare i dadi e prendiamo il tiro più alto. Quindi 1 di 4 e 2 di 6, giusto? Non abbiamo fatto un di 6, 2 di 4, Sì, può scusami. essere. Però era venuto 2, quindi Mi Ah, ora sentite? sì, ora sì. Oh, cosa mi sono persa perché state rollando tutti quanti? Perché non c'eri tu, quindi ci preparavamo a fare le robe noiose del giorno dopo. Io ho Ritira tirato anche. un di 6 e 2 di 4 prima, quindi. Sì, fai un di 6 e 2 di 4 ora. Ok, Io? Adesso arriviamo, ora. Okay. Sei fatto 4, i 2 di 4, li hai rirollati separati? Sì, perché ne avevo già rollato uno, okay. Non sapevo se rirollarli. Niente, più basso di quell'altro, quindi non guadagni e non perdi niente. Ok, mi spiace. Facciamo Rox. Allora, l'idea è che, visto che non c'eri, stavamo prendendo sta roba qua. In realtà ci sarebbe tutto l'evento della mattina dopo, lo facciamo dopo questi roll ormai che abbiamo iniziato. La sera dopo che fate l'uscita, potete scegliere di o allenarvi durante il giorno, come avete fatto nei giorni prima, o di riposarvi per essere carichi. Tu ora mi devi rollare la vita per determinare con quanta vita parti il giorno dopo. Naya rolla 3 di 6 più 1. 3 di 6 rolla. Ok. Se sei già dentro. Yes, yes. Avevo noia. Porco Dio. Bene. E no. Puoi riposarti e quindi spendere... Cioè, ritirare. Sì. Ok, tira di nuovo 3 di 6. Vuoi riposarti ancora una volta? Sì. Dimmi te. Ok, perfetto, vai. 15 no, su adesso. 15. Ok, Naya è riposato. Cioè, 15 su 15 è ok. Abbiamo fatto Adone e Naya. C'ho Gideon. Allora, hai 11 punti vita. Il massimo che puoi avere è 19. Dimmi te se vuoi spendere uno per riposarti, se vuoi allenarti. Sì, uno... Uno riposo. Vai, rolla di nuovo i dadi, che se non sbaglio sono 3 di 6. Ah, tutti e tre li rollo? Sì, sì, sì, rirolla tutti. Prendiamo il più alto dei due totali. Unlucky. Unlucky. Con grande, l'altro... mio fra! Con l'altro tiro che hai, vuoi riposarti di nuovo o vuoi fare un'attività? Mi riposo di nuovo, dai. Vai, 3 di 6. Ok, vabbè, meglio di prima. Sì, è a 14 su 14. Poi, sempre in ordine, ho Ivan. Ivan, hai 15, il massimo che puoi fare è 16 e 6, 24. Ok, no, puoi migliorare di tanto. In cosa? Hai rollato basso, credo, prima. Sì, hai rollato veramente di merda. Preferisci riposarti o fare altre attività o uno e uno? Così allora. Inizieresti la prossima avventura con 15 punti vita. Se per te sono pochi, vai. Io volevo magari scrivere una lettera, cioè cercare di scrivere magari i dead, cioè... Ok, se è possibile anche aiutarmi un pochettino con sto roll di merda. Ok, allora 1 e 1. Fai prima i punti vita che mi riesce più facile. Ed è 2 di 8 e 1 di 6 di nuovo. Madonna che sfiga che hai. Credo che sia migliorato di 1 rispetto a prima. Perché 3 più 2 più 1 fa 6, 6, 6, 12, 4, 16. Sì, mi piace, raga, stavolta dovete salvarmi il culo. Allora, leggere direi che è di nuovo cultura. Giusto? Cioè, secondo me... Ma non leggere, volevo cercare di scrivere una lettera a mia moglie. Ok. Sì, sì, sì, te lo faccio fare come roll di cultura. I don't know se torneremo di nuovo qua. Uh-huh. Di 100. Madonna. Una lettera sentita. Minchia. Hai scritto una lettera così sentita che ha migliorato la tua comprensione di te, ti fa crescere spiritualmente, ma non accresce le tue capacità culturali. Guadagni 5 punti esperienza proprio di level up. Minchia. E abbiamo fatto anche Ivan, mi rimangono Zanzan ed Erindor. Andiamo prima da Erindor. Io faccio due attività e sei già qua. Perfetto, sono due roll da di 20, se sono per alchimia, per fare le robe alchemiche. Sì. Vai. Good luck, perché qua stai giocando col fuoco. Allora, ottieni anche tu 5 punti esperienza proprio del level up, col 18, mentre col 16... (ride) No, ti faccio ritirare. Vai, tira di Va nuovo. bene. Tira un di 20. Perché avete già trovato tutti gli item che ti do 6 punti maestria, basta. Ti do 6 punti maestria con i quali sali di livello e alchimia al 2, quindi potenzi un tot delle tue spell. E mi rimane solo Zanzan. Zanzan, quanto avevo fatto con il gol di vita? 22, beh? Bella domanda. Sì, 22, tre. sì. Sì. L'avevo segnato per fortuna. Mi dico un po' bassino per Zanzan, però. Lo è? Il massimo che puoi avere è 32. Ci sta. È un po' basso. È un po' basso. Ma sai cosa, no? Fa le flessioni. Si allena. Ok. Puoi anche fare uno, cioè fare uno, vedere cosa succede, poi flessioni fisico. Fisico, yes. Di 100. Pardon. 53. Mi rolli 2 di 10. Minchia. Allora, hai la testa altrove, probabilmente stai pensando a Ren, e quindi guadagni un punto a mente e un punto a fisico, effettivamente, per le flessioni. Ok. Hai un altro roll, dimmi te cosa vuoi fare. Oh, un altro roll. E rollo di nuovo la vita, dai. Ok, 2 di 8, no, 1 di 10 e 2 di 8, vero? No, 1 di 10 e 2 di 6, scusami. Pardon. Merda. Peggio di prima, questo è un 21. Unlucky. Niente, vabbè. E, però almeno non hai peggiorato la situazione. Rimetto la musica. Avevate finito il discorso della sera prima, giusto? Cioè, stava morendo la conversazione anche prima che morisse Rox Irl. Sì. Ha Benissimo. fatto un commento talmente smag. È vero, l'hai sentita la Non frecciatina Rox prima di crollare? penso. No! Era importante la frecciatina, ragazzi. Avevo fatto una Vabbè. domanda e poi sono morta. E niente. Niente. Ah, no, no, me lo ricordo. Che non abbiamo robe umanistiche a Lunera e sono morta. Mi ha fatto danno fisico così tanto che Ok, è caduta la importante. condizione. Era importante saperlo. Ok. Dopo quel commento, non parla più. Andate a letto, cioè andate a dormire. Sto rileggendo le cose che ovviamente ho saltato perché ti pare che io non salti le cose. No, vabbè, il mattino dopo. A portarvi i giornali del 5, che peraltro ho preparato e tra un attimo vi invio, c'è una nostra conoscenza, infatti c'è la sua cazzo di canzone in sottofondo. C'è una differenza. Una differenza rilevante, importante, una differenza che si può vedere nel disegno che ha fatto Jin. È Oddio, ovvero? salita di Aspetta, domanda. rank. No, cosa Ah. Ora non ha più la persona che l'accompagna, è sempre con la maschera col becco da legato. Infatti, lei. Lei invece ha la maschera leonina da mostro, da orco, quello che è, con le Da corna, da Dux. Dux. Anche l'armatura diversa, con colori diversi, pezzi di metallo in più. È proprio fatta diversa. E ditemi chi è fuori di nuovo in giardino. Non Adone. Ok. Ditemi chi c'è, non chi non c'è, per favore, che se no non ne usciamo. Se non parla nessuno, non c'è nessuno fuori, c'è solo Bato. Io sono però come l'altra volta. Ok. Sta bevendo il suo lattino. Ci sta? E nessuno vuole stare fuori, davvero? Wow. E allora l'unica persona che è fuori è Batu, che dopo un po' chiama Naya e ti dice: amica esercito, fuori. E Oh, grazie Botu. E noi va. quindi fuori ci sono solo Naya e Maria a parlare. Maria ti consegna il giornale del giorno che avete su Telegram, se ve lo volete leggere. i manapenni per attivare tutte le apparecchiature del giorno. Noti che ha la maschera diversa. Vuoi dire qualcosa subito o lasci che parli lei? Nea la ringrazia per il giornale, le manapenni, e dice: ah, vedo che sei stata scelta. Sì. Aveva letto sul giornale che c'erano tutte le cose. Sì, sì, che c'era il posto vacante. E lei dice: sì, a quanto pare i miei servizi degli ultimi giorni sono stati molto apprezzati dall'impero. Congratulazioni. Come ti dicevo, se mai ti interessasse potrei trovarti una posizione nell'esercito. Ah, no, grazie, non penso che l'impero faccia per me, però grazie per averlo proposto. Lo capisco. Ho sentito di nuovo la tua famiglia, i tuoi parenti. Stanno ancora tutti bene, non hanno nessun sintomo, quindi probabilmente sono al sicuro dopo tutti i giorni di quarantena. E non siamo ancora riusciti a contattare Promezia. Grazie per averci comunque provato e grazie per avermi avvisato di come stanno. Una voce alle tue spalle ti sussurra: non trovi che le stia così bene quel vestito? Naya dice: niente, non dice niente. Lei ti vede un po' strano. Non gli viene small talk sì, sì, da sì. fare. Ti vede un po' strano e dice: sicuro che stai bene? Ti vedo con la testa altrove. Sì, sto... è una situazione un po' particolare. Devo ammettere che sta... tutti questi giorni lontano da casa e con tutta questa situazione un po' incerta mi stanno un po' affecting. Vedi che si gratta la pancia e dice: ah, forse un po' capisco. Smette e dice: domani sarai libero di tornare a casa comunque. Resisti ancora un giorno. Non fare niente di stupido, per favore. Proprio si sentono tutti da dentro la casa. Forse siamo infetti, Maria, scusami, devo andare, ciao! No, no, è raffreddore, continua a parlare. Una domanda, prima che faccio cazzate. Quando Naya usa le sue magie per detectare maledizioni simili, è una cosa che si vede esternamente o è una cosa solo che fa lui internamente? No, è una roba che fai. Cioè, non è percepita? No, dagli altri in genere no. Naya lo fa di sfuggita, cioè nel senso non con 300.000 lì a fissarla e... Qualcuno così. Con dei bellissimi denti si mette tra te e Maria, impedendoti di vedere oltre. Naya fissa proprio dritto, cioè nel senso dove dovrebbe essere Maria, e le dice: quindi come ti trovi nella tua nuova posizione? Cazzo, è bellissima sta scena. Ah, è un grande onore poter servire l'impero in questo modo. E mi hanno dato un altro appartamento più grande di quello di prima. No, no. E... è bello, è soddisfacente. Vabbè, congratulazioni. Grazie. Ora è lei un filo imbarazzata. Credi, non la vedi. Ci vediamo, Naya. Penso che sì, tutto. Beh, è stato un piacere, grazie per essere passata. E ancora congratulazioni per... Lei si allontana, non sei sicuro cosa stia facendo. E la persona col bellissimo sorriso dice: cercavi di fare qualcosa? Nea si gira e torna in casa. Quando apri la porta di casa, la persona è davanti a te e dice: ti basta aspettare stasera? E sparisce. Ok, andiamo avanti. Andiamo okay. Avanti. Il prossimo che ho sulla lista è Zanzan, che si sveglia di fianco a Ren. E stamattina invece è completamente inconsolabile. Cioè è proprio presa malissimo. Le avevano dato una stima del peso limite al quale sarebbe diventata pericolosa e siete a meno di 5 kg da quel peso limite, quindi realisticamente per la velocità a cui stava progredendo questa cosa non ci sarà un domani. Ok. E... vai. Ci provo ugualmente a rassicurarla e a dirle... a spiegare, cioè... Le faccio intendere che c'è comunque un piano. Non le faccio sapere cosa, non le dico niente, però cerco di farle intendere che comunque non tutto è perduto. E... we got a plan. E... immagino che stia piangendo e quindi non riesci nemmeno a capire di preciso cosa stia dicendo, ma è tipo... sarà tutto inutile, qualcosa di questo genere. I'm already dead. Vabbè, Zanzan tipo le mette tipo la coperta addosso, la braccia e esce dalla stanza. Ok, fine della tua scena. Pesantina, fammi leggere perché io avevo preso dei cazzo di appunti per sta sessione e non li ho ancora seguiti. Ok, durante il giorno ognuno di voi ha già scelto che attività fare, per lo più ciondolare, e notate che Devin is nowhere to be found, cioè gli altri giorni li ha passati tutti al secondo piano a studiare, a fare robe, mentre oggi non è in casa. La metto in un altro modo, perché giustamente così è aperta e non va bene. A qualcuno interessa di questa cosa? Io sì. Ok. Io comunque vado nel sì. Pochi, non è che siamo in 20.000. Ok, qualcuno altro vuole... considerando che è anche quello che sa del piano... cioè, quello che comunque... è roba... tutte cose? Come? No, ok, se però una certa è tipo 6 ore che non lo vedo, se tutta mattinata che non lo vedo, a pranzo non lo vedo e cose così, cioè... Sì, mi domando anche una casa di 2 piani, non è un castello. Che esatto. È assente tutto il giorno, non è in casa, non è nella sua stanza. Che Yale invece, fa le sue robe, che è tipo i cazzi suoi. No, allora io non mi preoccupo, cioè, alla fine è che Yale è il fattore più importante. Ci sta. Non vivete in una reggia, ci sono 2 piani e un capannone fuori. Le tue grandi doti di uomo di cultura ti permettono di capire che forse è nel luogo fuori. Quindi lo vuoi io andare... magari lo vado a cercare. Ok, solo Adone? A nessun altro interessa sta roba? Mi unisco, cioè nel senso... va sempre bene quando sono Adone e Naya. Sì, infatti. Naya chiama dietro Ivan, tipo... vabbè, tutti no. Dice, arrivo, no, però ragazzi, però dico, non me ne frega un cazzo di quello lì. No, vabbè, vengo per aiutarti in caso ci sia bisogno di dargli qualche pugno. Vabbè, mi accodo anch'io. Okay. Chiedo, tipo, ragazzi, qualcuno ha visto Devin oggi? Siete solo voi del gruppo, non ci sono gli altri NPC. Sì. No, io stavo andando a cercarlo, effettivamente, giusto per vedere anche che sia vivo, a posto. Credo sia però nel capannone fuori, nel senso, non è su, non è giù, non è fuori. Vuoi accompagnarmi? Andiamo tutti quanti a vedere? Ok. Ok, siete voi quattro, quindi, giusto? Zanzan, gli altri, cioè... Ma Zanzan non... E neanche Erindor, solo voi quattro. Vabbè. Tranne la corona, vabbè, pensiero mio. È effettivamente dentro al capannone, addirittura dal buco che avete fatto l'altro giorno strappando un asse, lo vedete. E quando entrate lo vedete che è tipo a gambe incrociate per terra che sta scasinando con degli oggetti metallici. Quando entrate facendo rumore, non lo fate in modo sneaky, no? Cioè... No, io credo che addirittura Adone bussi alla porta se... E poi apre. Cioè, bussa e poi apre. C'è il buco da cui si vede, no? Quando bussi e poi apre, lui lo vedi che è tipo... No, vai. Ah. Sto segando. Ciao. Ti... No, niente, ti... Stavamo cercando, ero... Eri sparito. Sto lavorando a una cosa per stasera. Ah, per... È una domanda inutile la mia, ma te la farò lo stesso. Vuoi una mano? No, grazie. Che cosa vediamo? Non ne siete sicuri. Componenti, fondamentalmente. Io vedo qualcosa che sono... Rolla un di 10, tecnologia. Chi è? No, eccoci qua. Yeah. Rolla in un altro. No. Grande, Ioan. Ma ha fatto 10 davvero. 18. Perché è più non c'è il bonus. Perché non è più uno. E meno uno perché è il secondo dado a meno uno. 18 è un ottimo tiro. Non sai cos'è, non perché tu non lo sai, ma perché questa cosa se l'ha inventata lui. Ok? Però... I componenti sono uno un trasformatore di manapenny, cioè proprio un oggetto che ci metti dentro i manapenny, li sbriciola e li trasforma e recupera l'energia per alimentare dei componenti. Gli altri componenti, anche questi, non li conosci perché probabilmente non li hai mai visti, ma sono o anelli o comunque componenti a forma di disco, ognuno dei quali casta una spell specifica. E in pratica sono i componenti per creare un'apparecchiatura che consuma i manapenny. Ok. Mi metto sulla sua spalla e gli dico: ah, stai preparando un apparecchio che consuma i manapenny per produrre cose. Nel senso, gli faccio capire che anche se I'm just a operaio guy che non ne sa assolutamente un cazzo di sta roba, I detected it. Lui ti guarda serissimo negli occhi e ti dice: è il nostro momento di buttare la spazzatura. I semi del male sono cresciuti fin troppo e ora dobbiamo strappare le erbacce. Non mi piace questo ragionamento. Sì, comunque, è un'apparecchiatura, una versione migliorata di quello che hai visto l'altro giorno. Il fucile che non ha fatto una bella figura. Parla come uno school shooter parla. Vero? Infatti Adone dice: lo stai migliorando in caso di emergenza o perché sai che lo utilizzerai? In caso di emergenza, ovviamente. Adone, ogni tanto si... Perché faccio le domande? Cosa le faccio fare? Lei ti fa un pat pat. D'accordo, io guardo gli altri e penso, non facendomi vedere in faccia da Devin. Da Devin e guardo gli altri tipo con gli occhi sbarrati tipo he's so fucking creepy, he's gonna kill someone. Allora comunque sì, cioè, capisce, dice, beh, allora ti lasciamo lavorare. Sì, grazie. Ho bisogno di ancora qualche minuto per completarlo. D'accordo, allora ti lasciamo. E Adone fa appunto per andarsene. Team Adol, no, un attimo, proprio alla rugby. Contro chi vuole usarla questa cosa? Cioè... Glielo chiedi? No, questo è... Non sarebbe... cioè, se vuole fare qualcosa che non dovrebbe, cioè, vuole usarlo contro il maggiordomo, tipo? Credo di sì. A prescindere da cosa faccia, cioè, non dovrebbe stare facendo qualsiasi cosa stia facendo. Ok. Vogliamo, e anche noi... Vogliamo, tipo, manomettere la cosa in maniera molto sneaky, non lo so. Che fa, sta lavorando... Tu non ci sei. No, è out of car, come fai? Cioè, scusami. Cioè, o glielo rompi in faccia e gli fai vaffanculo. Ivan che arriva lì e glielo prende. No! Glielo rompe come i Lego. Il bullo che glielo tira, glielo tiene sopra la testa. Te lo buco sto pallone. Comunque... Scusate, abbiamo chiuso la porta? Sì, siete fuori, potete parlare in segreto, okay. Scusa. Adone dice una cosa, dice... Io non sono così contrario all'idea che Erindor utilizzi quell'arma a nostro favore. Eventualmente, se le cose dovessero andare estremamente male, lui potrebbe essere l'unico colpevole. Tutto giusto, ma intendevi dire Devin? Scusa? Tutto giusto, ma intendevi dire Devin, credo. Non ho detto nessun nome, ma sì, era ovvio. Hai detto Erindor, perché sia io che Bianic abbiamo capito Erindor. Anche Ika. E anche Erindor. Non so cosa cazzo lo sono perfettamente d'accordo. Sì, sì. Ho un attimo sudato. Eddie, mi dispiace, ma qua sei tu quello con le voci oggi. Ma quanto cazzo l'ho detto nella frase? E non Aya. Allora, tipo... Vabbè. L'hai usato come soggetto. Vabbè, cioè, ci sta, è uguale. Ci siamo capiti. Vabbè, qualcuno vuole rispondere ad Adone o lo lasciamo appeso? Naya dice, ma siamo sicuri di voler fare questa cosa? Tecnicamente domani possiamo andare via. C'è qualcuno che sta ridendo di te ora. Naya, non credo che ci lasceranno andare via. Tipo la scena del fumettino di Steven Universe. Naya, we're going to have to kill this guy. Bello. Ci sta. Scusatemi, ma è la seconda volta che ci visto meme, tra l'altro. Sì. L'altra volta era Ivan con Naya. Fino a poco con te, Naya ha già ucciso, differenza vostra, quindi level up. Vabbè. E insomma. Basta. Io penso che tornerò lontano da qui. Quando state tutti e quattro ritornando a casa, vi ferma Batu e vi dice: bro. Tempo, me. Attivo every talk, I don't fucking care. Inizi la sessione, il combattimento di stasera con uno di fatica. No. Non vale così tanto capire cosa dice. Ma per rispetto, per farlo sentire una persona umana, Dio cazzo. No, non lo sprecare uno di fatica, ti servirà, fidati di me. Trust me on this one. Va bene, allora non lo faccio. Io ho preparato Porta Fortuna e tira fuori delle ghirlande, non so come descrivere in un altro modo, fatte con le foglie raccolte in giro. E dice... Ma lo amo! Fortuna in battaglia, uno per ciascuno, e in effetti ne ha fatta una per ciascuno di voi. Grazie. Beh. Batu, non dovevi. Beh, è molto gentile da parte tua, Batu, grazie davvero. Credo che ce ne servirà molta. Lo dà anche a Ivan. Lo prendo, mi ricorda qualcosa? Qualcosina del genere forse lo fa anche tua moglie, ma senza tutta la parte catabolica, metafisica. Cioè lo fa perché gli le piacciono. Ok. Perché è una donna. Droga. Negativo. Io mi dissocio dalle affermazioni che sta facendo questa persona. Con la spilletta, esatto. Me lo punto con la spilletta sopra la giacca proprio. Ne dà uno anche a Gideon. Lo ringrazio caldamente. Fa un cenno di sì e poi va a cercare Erindor E Arendor fa lo stesso discorso. Io lo vedo un po' come se fosse qualcosa di oleozzoso. Va bene, grazie, ti ringrazio. Aspetto che se ne vada. Se ne va subito dopo a cercare Zanzan, che è l'ultimo che manca. Vuoi fare qualcosa di questo oggetto, Arendor? Boh, non lo so. No, è appena scoperto Ivan che Dio esiste, è sulla porta e lo guarda. Ivan lo guarda come se non lo prendi e non ringrazi, ti uccido. Ma l'ho ringraziato. L'ha preso e l'ha ringraziato. Ora bisogna capire che uso ne fa. Se non te lo se non lo tieni, ti uccido. Vabbè. Damn, Ivan. Be a fucking nice person for one. Batu bussa alla porta di Zanzan e Ren. Non è, io ho già uscito, mi trovo tipo in sala, probabilmente. Ah, ok. E allora ti fa tutto il discorso di nuovo. Fortuna. Ah, fortuna. Oh, grazie, lo prendo, lo alzo come ringraziamento e... E fortuna molta Ren. E te ne fa vedere un altro che è diverso. È tipo fatto con i quadrifogli invece che con le foglie normali. Grazie, Pato. Mettere tu, perché il legame è più forte. Lo devo indossare io qui, no, anche questo. Mettere tu, Ren, legame più forte. Ok. Grazie, Bato. Voi un giorno parlerete un creolo. Arriverà. Ok. Facciamo in giro un'altra lingua. Sì, sì, sì. Gli dico che farò una preghiera al nostro dio, wink wink. Per la caccia. E ho finito anche sta cosa. Passa il pomeriggio, ognuno di voi fa le sue attività, si riposa, eccetera. Siamo a cena. No, Ren la roba. Sì, sì, sì, scusami. Okay. E Ren è abbastanza disperata che è stravolta, cioè non... sono 4 giorni che non dorme. Quindi a malapena capisce cosa le sta succedendo, però ti ringrazia quando c'ha il barlume di lucidità. E io direi che se non volete fare altro, cioè, fanculo, anche se volete fare altro lo fate a cena, ok? Mm-hmm. È l'ora di cena, siete tutti radunati nella grande stanza, non così grande, vabbè, nella stanza dove avete cenato per tutti questi giorni. Kael tanto non mangia, quindi vi dice che lei andrà a preparare il sigillo e va fuori. Quindi rimanete tutti voi, tranne Kael e Ren. Mm-hmm. Se volete interagire, interagite. Quando volete che stacchiamo, stacchiamo. E io ho solo una scena da fare prima di staccare effettivamente. Ditemi voi. Io preferirei staccare adesso. Ok, allora vi faccio la mia scenina di merda. Poi niente, se vogliono interagire fra di loro a coppie, chi rimane, lo possono fare. La mia scena di merda è... Dopo cena, Kael ha preparato il sigillo, quindi è un sigillo per terra. Chi è che ce l'ha il disegno? Rox, ce l'hai a portata di mano? Quello di Kael. Ok, ce l'ho. Lo mando su Telegram. Ok. Ha tracciato questo simbolo. L'area rossa non è rossa. In quell'area ci sono disegnate 8 rune, 8 lettere strane. Nessuno di voi è in grado di leggerle. Esatto. C'è una differenza, ovvero... All'esterno di questo sigillo, in un angolo, cioè in uno dei punti che formano un angolo delle linee al centro, c'è un altro sigillo simile, più piccolo, e con alcune differenze. Questo è quanto. Lei vi spiega che dovete mettervi tutti all'interno del sigillo per cancellare tutti i contratti che avete su di voi, e vi chiede se volete farlo, cioè vi chiede di farlo, e... Devin e Batu lo fanno, cioè si mettono subito dentro. E Ren? Si è riuscito ad alzare? Ren no, rimane a casa, ma era già... cioè non gli avete neanche detto cosa volete fare. Il nostro sì, caro Ren Carl è... si sta facendo i cazzi suoi e sta per campare 100 anni. Ok, beh. Non salta dentro. Perfetto. Salta anch'io dentro. Sì, anche Adon. Ok. Anch'io. Naya? Fa un passo verso il sigillo di merda. Per la prima volta da quando hai avuto il piacere di avere a che fare con lui, senti il suo tocco freddo sulla tua spalla e ti dice: è l'ultima possibilità che ti do. Let me just. I gave you a chance to see the truth. Will you refuse it? Yes, run. Senza anche parlare, no. Tutto ok, Naya. Naya si gira verso l'uomo che ride e sta ignorando tutti quanti e dice che mi dispiace, ma non penso di essere la persona adatta. È un vero peccato. Goditi il tuo futuro. E lo vedi che se ne va nella direzione opposta, camminando oltre la barriera come se niente fosse. Voi avete visto Naya parlare con nessuno, caso lo stesse chiedendo. Ormai, Sì, Naya una non è volta in che più, una sia al volta in sicuro meno. della sanità mentale. Yel dice: Hic quibol abuit quid sus. Resu. No. Sus. E ho l'ultima scena, quindi lo finiamo con questo bel cliffhanger. Nel momento in cui uno vo di voi vuole, interrompete questo collegamento e la bella descrizione che vi sto per fare, altrimenti io vado avanti. L'effetto del sigillo è quello di rompere tutti i contratti che avete su di voi, tranne uno, e Il matrimonio. qualcuno sa di cosa sto parlando. Non ti rispondo. E non rispondo a nessuno. Avete tutti la vostra vista collegata con quella di qualcun altro, quindi vedete dal punto di vista di un'altra persona e questa persona si teletrasporta costantemente, cioè ogni 3-4 secondi si muove da un punto a un altro, abbastanza lontano da quello di prima, ma soprattutto avete l'effetto dei film in cui vedete che cambia la telecamera e vedete le cose da un altro punto di vista. E quello che vedete è un nucleo di una centrale, perché ormai sapete come sono fatti, bianco con delle macchie azzurre qua e là. E al centro di questa centrale, avvolto da una ragnatela di cavi, c'è un uomo basso, non so come descriverlo in un altro modo, non l'uomo più bello del mondo, sbarbato, con delle corna da un tipo di capra specifico, che poi semmai vi mando, quindi nere con tanti anelli, molto lunghe, più grandi della sua cazzo di faccia, ed è avvolto da questa ragnatela. E a un certo punto la ragnatela si rompe, si stacca e l'uomo scende gentilmente a terra. Voi continuate a vedere questa cosa da tutti i punti di vista. Quasi in ginocchio, si alza in piedi e conversa con voi e dice: quanto tempo? Quasi 80 anni. E ora cosa posso fare? Beh, le tue alternative sono tentare la fuga oppure goderti 5 minuti di puro caos. Tieni, ti ho portato il tuo uovo e il tuo medaglione. L'uomo afferra le due cose e dice, le mette in tasca e dice: scelgo la seconda. Tende la mano verso la porta della centrale e voi vedete uno tsunami da tutte le direzioni, perché mentre che compare chi siete, cioè la persona attraverso i cui occhi vedete si teletrasporta, uno tsunami che distrugge la porta, ok, facendo breccia. La centrale in questione fa scattare l'allarme, ci sono un sacco di robe che vi ricordano gli eventi di qualche giorno fa. Vedete l'uomo che esce fuori dalla porta, si guarda intorno, sempre con queste corna che girano, e dice: hanno preso anche Liviagon, vedo che non ha più l'effetto di prima. Sì, da 70 anni, quindi hai un po' le cose meno efficaci dell'ultima volta, ma sono sicuro che ci possiamo divertire lo stesso. Tira fuori il medaglione e vedete chiaramente che sul medaglione c'è un quadrato, un triangolo e quattro linee. incise come graffiate sulla parte superiore. Il medaglione brilla di una luce azzurra. E l'uomo dice: lui però non l'hanno preso. No, lui è ancora libero. E non credo verrà a salvarmi. No, non credo verrà a salvarti. E va bene. Da qui in poi questa connessione diventa monotona. L'uomo accelera, diventa estremamente veloce, proprio una cosa disumana, e inizia a uccidere senza pensarci tutte le persone che gli vengono incontro. In modi anche grotteschi, cioè proprio strappandogli pezzi del corpo. Una cosa molto allegra e violenta. E con ogni morto vedete che non è minimamente turbato, anzi sembra godere di questa cosa, sembra divertirsi tantissimo a fare questa cosa. Esce fuori dalla centrale, fa fuori decine di persone apparentemente innocenti, cioè proprio passanti, e continua la sua crociata finché non arriva l'esercito. Gli sparano, combattono, questo usa delle magie strane, loro usano una serie di magie standard dell'esercito per fermarlo. Riescono a rallentarlo, se non fermarlo. E finalmente uno dei Dux, uno di quelli con questa maschera leonina, lancia una magia sigillante che non avete mai visto prima, che lo impala nella posizione in cui era impalata la persona all'interno del nucleo. E si interrompe la condivisione. Non pensavo me l'avreste fatta fare tutta. E invece... la chiudiamo qua, la sessione. Ok. Dio stracane. Fannia. Mm-hmm.